La zanzara con Alessio Maurizi. 18:30, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori. 800 24 00 24 anche questa sera il numero verde per intervenire in diretta fino alle 20:30, quando ci sarà il discorso di Napolitano e anche dopo, se ci sarà ancora tempo. 349 238 6666 la zanzara @radio24.it. come ogni sera cominciamo con i titoli del TG2. Il presidente brasiliano Lula nega l'estradizione di Cesare Battisti. Napolitano esprime la sua amarezza e la sua contrarietà alla decisione. Berlusconi dice battaglia non chiusa. In Afghanistan ucciso un alpino, Matteo Miotto, 24 anni, è stato raggiunto dal colpo di un cecchino nel distretto del Gulistan. È la 13ª vittima nel 2010. A bordo di una vecchia 600 sfida una Ferrari. Il conducente della Fiat impedisce in tutti i modi il sorpasso della fuoriserie, scoppia la lite, due gli arrestati. Festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza. Tanti saranno questa notte i concerti in Italia da nord a sud, musica d'autore per migliaia di fan. Come detto, allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta. La notizia del giorno è naturalmente quella che riguarda il Brasile, quindi la mancata estradizione all'ex terrorista Cesare Battisti, con una crisi che si potrebbe anche aprire tra l'Italia e il Brasile, una mezza crisi diplomatica. Parlare di boicottaggio per primo era stato la russa che oggi dice: a questa decisione dell'Italia ci saranno sicuramente conseguenze, sentiamo. Non si illudano, è un affronto, prima di tutto alle vittime, ma anche al governo italiano. Non si illudano che questo possa passare senza conseguenze. Ho sentito il ministro Frattini, noi faremo tutto ciò che il diritto consente per far cambiare ancora, ci speriamo, questa incredibile decisione di un governo che credevo amico e che evidentemente non lo è nella misura in cui lo abbiamo creduto. È una vergogna. Così la russa. Invece così il figlio di Pierluigi Torreggiani, ucciso nel 79 da un commando di terroristi dove c'era anche Battisti, che annuncia, il figlio rimasto, come sapete, su una sedia a rotelle proprio in quell'occasione, paralizzato, che annuncia un sit-in contro questa decisione davanti all'ambasciata brasiliana. Ho deciso insieme a Daniele Santanché, di cui ne faccio parte come movimento politico, abbiamo deciso insieme di fare i vari passi. Tra questi, quelli più importanti sono, in primis, un sit-in il 4 gennaio prossimo, 2011, alla sede del consolato brasiliano a Piazza Navona a Roma. Record di telefonate e di interventi ieri sera alla Zanzara per il personaggio dell'anno. Ebbene, abbiamo fatto i conti tra telefonate, sms, email, interventi degli ospiti. Il risultato del nostro personaggio dell'anno è... And the winner is... Winner is un ex aequo tra Maria Stella Gelmini e Gianfranco Fini, l'autrice della contestata, amata e odiata riforma dell'università, e il leader politico, presidente della Camera, che ha lanciato quest'anno un nuovo movimento politico in rottura di collisione con il governo. Distanziati di poco, appaiati, Marchionne, Nichi Vendola e Berlusconi. Ma il tema che noi vogliamo lanciare questa sera, anzi, se volete continuare a dire il vostro personaggio dell'anno, potete accodarvi 800 24 00 24. Questa sera invece vogliamo proporvi un altro gioco, se volete. Il tema è il futuro dei giovani. Se ne è parlato molto, forse proprio per la riforma dell'università che ha calamitato l'attenzione sugli universitari, sui giovani. È stato il tema anche della trasmissione di Fazio e Saviano. L'Italia è un paese per giovani o no? Andare via e cercare fortuna all'estero o restare? Anche Radio 24 ha un programma, Giovani Talenti, che si occupa di questo. Sono alcuni anni che vari governi lanciano delle misure per limitare la fuga di talenti all'estero. Ebbene, questo è il tema che vogliamo lanciarvi questa sera. Giovani all'ascolto, intervenite 800 24 00 24, andare o restare? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Insomma, il tema c'è tutto, perché se ne parla insomma sempre di più, e quindi soprattutto gli under 30, se vogliono, possono intervenire, ma anche gli over 30 naturalmente, perché il dibattito è aperto per tutti. Anche alla luce di questa nostra proposta per questa sera, e non vogliamo esimerci dal fare l'elenco dei fatti di quest'anno, vogliamo ripercorrere, fare una carrellata dei fatti del 2010, anche alla luce dei quali rileggere appunto la questione che vi poniamo questa sera: andare o restare dall'Italia. Elenco dei fatti. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. È stato un anno, cominciamo con cose accadute all'estero. Il grave terremoto ad Haiti il 12 gennaio di quest'anno, quasi 230.000 morti. Quando sei partito, fatto drammatico, e naturalmente non ce lo vogliamo dimenticare. Un altro fatto brutto, negativo, che ha riguardato l'ambiente, sempre alla prima parte dell'anno, il 20 aprile un'esplosione sulla piattaforma petrolifera Deep Water a largo della Louisiana. 5 milioni di barili di petrolio che dilagano nel mare e sulle coste dell'America. Il 15 luglio la falla è chiusa, il più grande disastro ambientale americano. A giugno il mondiale di calcio, l'Italia esclusa con l'ignominia, vince la Spagna. Ripercorriamo quel momento con le parole di Lippi, che fa mea culpa. Col terrore nelle gambe, nella testa e nel cuore, e non riesce a esprimersi per come era necessario, significa che l'allenatore non l'ha preparata nella maniera giusta questa squadra, né sul piano psicologico, né sul piano tecnico, né sul piano tattico, ma penso che sia soprattutto una questione psicologica. Perciò mi prendo tutte le responsabilità. Mi dispiace da morire per tutti gli sportivi italiani, per la federazione, per il presidente, per i giocatori, per tutti. Siamo a luglio 2010. Dopo lunghe tensioni tra Fini e Berlusconi, scoppia in campo apertissimo la rottura e il gruppo di Fini viene espulso dal PDL. Sentiamo questo ormai famosissimo battibecco tra i due. Berlusconi, te lo dico in faccia, come ce lo siamo detti tante volte a quattro occhi, questa è la prima volta che parliamo davanti alla nostra gente. Raramente il tradimento è nella coscienza di chi si assume la responsabilità in pubblico e in privato di insistere su alcune questioni. Io lo considero a me cose che non ho mai detto. Ha il diritto di replica. E senza grandi disturbi. Sempre nello stesso periodo, l'uomo della provvidenza, l'uomo che l'anno precedente si era guadagnato, tra l'altro anche a Radio 24, il titolo di personaggio dell'anno, Guido Bertolaso, per il terremoto dell'Aquila e per tutti gli interventi. Gli italiani lo amavano e lo idolavano, e forse lo amano ancora, però finisce nella bufera per le inchieste sui grandi appalti e anche con qualche scorcio a luci rosse. Lui si difende così. Siamo all'ennesima puntata di questa macelleria mediatica che purtroppo mi sta coinvolgendo e sta travolgendo la mia famiglia da alcuni mesi. Mi domando quando finirà e se ci sarà qualcuno che avrà intenzione di adottare qualche provvedimento per farla finita, visto che si tratta sempre di notizie che non sono assolutamente corrispondenti alla realtà. E se quest'anno poi passa... Ad agosto il giornale lancia la campagna, insomma, gli articoli sulla casa di Monte Carlo che investono Gianfranco Fini, la casa venduta da AN, un fondo straniero in cui abita il cognato di Fini. E in una sera Mentana al TG della 7 chiede a Fini, fa la domanda cruciale: ma lei c'è mai stato in questa casa? Lei non è mai andato in quella casa di Monte Carlo? No. Quindi quelli che dicono l'hanno visto, lo provino. Lucciole per... sì. Lo provino. È stato anche l'anno della visita di Gheddafi in Italia. Gheddafi con tutto il contorno di amazzoni, di lettura del Corano, di conversione all'Islam e di un'Italia giudicata da alcuni troppo inginocchiata al leader libico, quasi un imperatore. Abbiamo accolto Gheddafi come un imperatore, dopodiché la settimana dopo ci ha sparato contro le nostri pescherecci con l'ausilio indiretto e incolpevole da parte loro dell'Italia che gli aveva regalato le motovedette, gli aveva messi i finanzieri a bordo. Così mi distraggo un po'. A settembre le telecamere e i telegiornali di mezza Italia si concentrano su Avetrana. È scomparsa una ragazza, verrà ritrovata morta. Sara Scazzi della sua morte verrà accusato lo zio e anche la cugina. Sono agghiaccianti i particolari sulla morte di Sara Scazzi che emergono dalla confessione di Michele Misseri, lo zio della giovane che nella notte ha ammesso di averla uccisa. L'ho strangolata con una cordicella mentre era di spalle e ho abusato di lei dopo che era già morta, avrebbe raccontato agli inquirenti che lo hanno messo sotto torchio per 12 ore. L'avrebbe uccisa nel garage di casa sua e poi l'avrebbe denudata e gettata nel pozzo bruciando successivamente i vestiti. A mettere gli inquirenti sulla pista giusta sarebbe stata un'intercettazione ambientale in cui la cugina Sabrina diceva piangendo alla madre: tanto lo so che l'ha presa lui. 800 24 00 24 per intervenire in diretta questa sera e dirci se conviene andare o restare in Italia, anche alla luce di questo elenco di fatti che riguardano l'anno che si sta per chiudere, che è stato caratterizzato senz'altro anche dal scandalo Ruby, la minorenne marocchina che ha raccontato di feste ad Arcore. Risentiamo un'autodifesa di Berlusconi. Quanto poi alla mia capacità di essere ospite e di essere un ospite abbastanza irripetibile, forse unico, ne sono molto orgoglioso. Io sono una persona giocosa, piena di vita, amo la vita, amo le donne. Quindi niente bunga bunga? No, bunga bunga è una vecchia storiella bellissima di tanti anni fa che voi sapete bene, che mi ha fatto ridere molto. Anche questa volta mi fa ridere molto. Ce lo insegnò Gheddafi, quant'è importante la vi. Canta, canta con Lele, balla, balla con Fede. Se non stai attento vai in galera per colpa dell'Africa. Bunga, bunga, ad ottobre a Napoli riappare con tutta la sua evidenza l'emergenza rifiuti che sembrava dimenticata. In autunno la crisi politica di queste tensioni tra Futuro e Libertà e il PDL esplode con la questione dei numeri del governo in vista della fiducia di dicembre, la compravendita di deputati. E anche qua un contributo audio. E in ogni caso martedì prossimo, comunque vadano le votazioni, questa crisi sarà evidente. O pensano di risolverla con la compravendita di qualche voto a 4 giorni dalla conta, con pratiche vergognose che fanno arrossire l'Italia davanti a tutte le democrazie del mondo. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! È stato anche un anno in cui, come mai, dice il ministro dell'Interno Maroni, è stata fatta la lotta alla mafia. I suoi patrimoni sono stati arrestati non so più quanti boss, forse 28 sui primi 30 più ricercati. E con soddisfazione Maroni ne parla, sentiamo. C'è un aumento nei beni confiscati, sequestrati e confiscati, c'è un aumento del 500% rispetto ai 2 anni e mezzo precedenti. C'è un aumento nel numero dei mafiosi arrestati, ne sono stati arrestati 6 al giorno in media dall'inizio del governo. E i 28 latitanti nell'elenco dei 30, ne mancano solo 2, sono tutti risultati che non hanno precedenti. Vogliamo citare tra i fatti dell'anno anche naturalmente la pubblicazione dei cablogrammi della diplomazia svelati e pubblicati appunto da WikiLeaks, il sito di Julian Assange. Comunque la si pensi, un fatto che ha caratterizzato quest'anno, ha alzato il velo, ha alzato un po' il sipario su i retroscena della diplomazia mondiale. Abbiamo parlato della riforma dell'università, lo stesso giorno in cui si votava la fiducia al governo, il 15 dicembre, grande manifestazione a Roma, grandissimi scontri, grandissime violenze. Gasparri. Genitori, dite ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate. Il Sole 24 Ore di oggi lo propone come uomo dell'anno. Noi ieri lo abbiamo portato sul podio, al secondo posto, Sergio Marchionne, l'uomo della rivoluzione. Siamo arrivati alla fine dell'anno, davvero agli ultimissimi giorni. La rivoluzione Marchionne a Pomigliano e Mirafiori, ma non tutti sono d'accordo. Landini, Fiom. Provate ad andarci un po' sulle catene di montaggio e vediamo se dopo ragionate nello stesso modo oppure se capite cosa vuol dire essere sfruttato su quella condizione lì. Should I stay or should I go? Restare in Italia o andare, andarsene e cercare fortuna. Buonasera, Irene Tinagli. Buonasera. Docente di economia dell'impresa all'Università di Madrid, specializzata proprio in innovazione, in creatività. Poi lei lavora all'estero, per cui la domanda se andare o restare non gliela faccio nemmeno. Lei è andata? Ma da mo, come si direbbe a Roma. Sono 10 anni che vivo all'estero, quindi è tanto. Io lo raccomando a tutti, ma a prescindere dalle polemiche sull'Italia, eccetera, eccetera. Secondo me è un'esperienza che tutti dovrebbero fare, assolutamente. Tanto lei ha un curriculum prestigiosissimo, perché ha collaborazioni, non so, col Fondo Monetario, con l'ONU. Con chi non ha avuto delle collaborazioni? Insomma, è un'economista di punta, un'italiana che si è fatta molto apprezzare all'estero. Andando fuori, vivendo, lavorando all'estero, è anche più facile poi entrare in contatto con realtà internazionali, quindi la Commissione Europea, le Nazioni Unite a New York, però è una cosa che è più facile riuscire a entrare in contatto con queste realtà quando si ha questa mobilità, quando si comincia a collaborare con università straniere, insomma si aprono un sacco di opportunità, di idee, di relazioni interessanti, si impara tanto, per cui non... è più facile crescere, imparare facendo questo tipo di esperienza, ecco. Ma ci sono dei motivi secondo lei anche per restare in Italia? Per i giovani stiamo parlando, naturalmente. Io mi piacerebbe pensare, ecco, che chi resta o chi torna, perché uno può comunque fare un'esperienza fuori e poi decidere di tornare. Io anch'io, dopo tutto, sono negli ultimi 2 anni, sono molto impegnata, sono spesso in Italia. Ci sono tanti buoni motivi per farlo. L'Italia, io credo che sia in una fase molto, molto delicata, molto bisogno di persone giovani in gamba, che hanno voglia di cambiare, che hanno un atteggiamento. Io vedo una differenza abissale proprio nel modo di lavorare, nel modo di vedere il mondo, tra alcuni giovani con i quali collaboro e i vecchi politicanti, per cui sì, un buon motivo per restare è dare un contributo al cambiamento, al miglioramento di questo paese. Facciamo il traffico, poi rientriamo tra pochissimo con il coordinatore dei Giovani Padani, anche lui la domanda: andare o restare? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? 800 24 00 24, andare o restare? La domanda la giriamo a Paolo Grimoldi, che è coordinatore dei Giovani Padani, anche onorevole della Lega. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, agli ascoltatori. Ma io sono per andare e fare esperienza, ma non dimenticarsi qual è la propria casa, qual è il proprio territorio. Anche perché, insomma, se tutti vanno e nessuno resta, poi... è un po' un problema, però penso che di opportunità ce ne siano tante, e sicuramente questo dimostra comunque che nel nostro paese una riforma del sistema universitario per far sì che ci siano meno giovani che scappano in via definitiva all'estero è sicuramente auspicabile, è stata fatta. Io sono tra coloro che voleva qualcosa addirittura di più. Senta Grimoldi, l'Italia negli ultimi 12 mesi è diventato, mi sembra che la sua risposta sia sì, un paese più adatto ai giovani rispetto al passato. Voglio dire, mi sembra che l'unico protagonismo dei giovani quest'anno che ci sia da registrare sia quello, per esempio, delle contestazioni appunto alla riforma Gelmini. Comunque la si pensi, si è parlato dei giovani in quelle occasioni, invece si è parlato della loro mancanza di presenza in tutti gli altri campi, economici, politici, eccetera. Questi 12 mesi che sono trascorsi in vano o è stato fatto qualcosa? Cosa? Beh, guardi, io allora parto dall'aspetto politico e dall'aspetto specifico che mi appartiene nel mio movimento politico. Si parla tanto dei giovani in politica o dei politicanti che sono dei vecchi babbioni. Beh, io penso che la Lega parli coi fatti, visto che il gruppo parlamentare più giovane è quello della Lega, il gruppo al Senato più giovane è quello della Lega, il presidente di provincia donna più giovane d'Italia è della Lega, i consiglieri comunali, i primi 5 più giovani d'Italia, sono tutti e 5 della Lega. 2 su 3 dei sindaci più giovani d'Italia sono della Lega, il consigliere regionale più giovane d'Italia è della Lega, e potrei andare avanti. Quindi cerchiamo di parlare coi fatti, con una classe dirigente giovane, legittimata dal ricoprire posti anche delicati. Sul fatto che sono aumentate le opportunità, penso di sì, però guardi, stiamo girando una nave, il nostro è un paese che si è sempre basato sull'assistenzialismo, lo statalismo, stiamo cercando di creare opportunità premiando la meritocrazia. La riforma universitaria va in questo senso, mi permetto di dire che io avrei voluto qualcosa di più, per esempio l'abolizione del valore legale del titolo di studio, come funziona in America, come funziona in Inghilterra. in modo da creare concorrenza anche tra gli atenei. Quali sono gli atenei nel nostro paese che ti preparano meglio? Per quale motivo il pezzo di carta che io prendo nell'ateneo A ha esattamente lo stesso valore che del pezzo di carta che prendo nell'ateneo B, quando sappiamo benissimo che ci sono università nel nostro paese rinomate e università che, diciamo, un po' più lassiste, che ti preparano in modo un po' più scarsetto? Allora vogliamo anche il valore legale del titolo di studio, creiamo concorrenza tra atenei in modo da migliorare l'offerta formativa e migliorare la preparazione dei nostri ragazzi. Tinagli, Irene Tinagli, che ne pensa? Ha sentito la provocazione che viene qua da Grimoldi, che non c'entra nulla con l'università, però... Era stata una cosa proposta dai radicali tantissimi anni fa, se ne è parlato tantissimo e per me potrebbe anche andare bene. Certo, le cose sono più variegate, la competizione secondo me la si crea molto con i fondi, questa legge già, questa riforma qualcosa introduce, comunque molto dovrà essere definito poi dai decreti attuativi e questo lo vedremo. Volevo solo dire una cosa, mi sembra, io dico che c'è bisogno molto dei giovani, ma non sono così ottimista come l'onorevole purtroppo sul fatto che l'Italia ora sia pronta per questi giovani, quindi io spero che i giovani abbiano la forza di farselo questo spazio, perché oggettivamente non è che l'Italia da questo punto di vista sia migliorata tanto. Purtroppo la riforma dell'università è un piccolo tassello, anche lì si poteva fare un po' meglio, un po' di più, ma è mancato molto altro: la riforma del mercato del lavoro, i contratti, il welfare, su tutte queste cose è mancata una spinta, le professioni, le liberalizzazioni, su tutte queste cose qua è mancata completamente un po' di iniziativa e un po' di innovazione, e speriamo che magari il futuro porti qualche novità e qualche buona notizia, perché per adesso da fare ce n'è ancora tanto. E anche sul discorso di portare tanti giovani in politica, bene, volentieri, fa piacere se ci sono partiti che lo fanno, però ecco, mi piacerebbe dobbiamo che aumentare il numero dei parlamentari invece di diminuirlo, per dare spazio ai giovani. Non è solo una questione anagrafica, bisogna vedere anche quali giovani si portano. Mi piacerebbe che ci fossero magari dei giovani che hanno girato un po' il mondo, che hanno visto come funzionano le cose, che sanno che non sono le repliche dei vecchi politici, che poi solo che un po' più giovani. Mi piacerebbe che avessero proprio un approccio mentale nuovo, fresco, innovativo, meno ideologico, qualcuno un po' si vedono, fa piacere, ma mi piacerebbe se ci fosse più spazio per persone così. Senta, io ho un dubbio che mi arrovella, io non capisco se la riforma Gelmini è davvero ci avvicina all'Europa come si sente dire e come sembra quando si parla del merito, per esempio, di limiti che sono stati messi anche alla durata dei rettori, eccetera, eccetera, oppure no? Lei dal suo osservatorio più o meno privilegiato di Madrid. Ma l'Europa è un panorama molto variegato, per cui ci sono delle realtà anche abbastanza diverse. La legge introduce delle cose secondo me positive, come l'idea della valutazione, di sottoporre gli atenei a un minimo di valutazione, di legare l'assegnazione delle risorse a questo, diminuire la durata dei rettori, però effettivamente abolisce un po' le vecchie tipologie di concorsi, e questo è una cosa analoga a quello che avviene in Spagna, in Francia, e potrebbe essere una cosa quindi positiva. È ancora un pochino c'è l'impronta forte dello Stato che interviene, non liberalizza come negli Stati Uniti, per esempio, anche perché secondo me un po' il modello potrebbe essere più gli Stati Uniti che l'Europa, perché appunto l'Europa non ovunque è un riferimento ideale. Però qualche passo è stato fatto, avrei preferito un po' più liberalizzare di più, questo forse anche come dice l'onorevole, non solo sul titolo di studio, ma dare ancora più autonomia. Però e mettere più ancora possibilità di merito, però effettivamente uno deve anche fare i conti con il paese, le condizioni politiche e sociali che ci sono, e quindi insomma bisogna anche a volte saper accettare i piccoli passi. Senta, invece Paolo Grimoldi, le vorrei chiedere, coordinatore dei giovani padani e onorevole della Lega. La Lega, se parliamo del merito, si è sempre posta così come una forza un po' innovatrice che voleva andare contro Roma ladrona, contro una certa corruzione anche che c'era nella classe politica. Adesso però ultimamente stanno venendo fuori un po' delle cose che vi riguardano in quest'area tematica, diciamo così. Mi riferisco per esempio al caso delle parentopoli supposte in Piemonte, che hanno riguardato il Consiglio regionale da poco con Cota presidente, oppure il caso del presidente del Consiglio del Friuli, Ballaman, che si è dovuto dimettere per la questione dell'auto blu. Non è che la Lega, piano piano, invece di far spazio ai giovani al merito, si sta trasformando in una forza di potere? Ma guardi, io non penso assolutamente, perché il sottoscritto, come tutti gli altri eletti nelle file della Lega, mantiene la buona tradizione di andare ad attaccare i manifesti di persona. Detto questo, che ci può essere stato qualche caso, per l'amor del cielo, può capitare, tenga presente che essendo ormai un movimento politico che ha mediamente il 30% dei consensi in tutto il nord e amministrando... Cioè, è quasi fisiologico, insomma, lei mi dice crescendo da forza, diciamo, minoritaria... Diciamo che l'amministratore non propriamente bravo può capitare a chiunque. Detto questo, però, mi permetto di dire che i casi che lei ha citato, soprattutto sì, quello del Piemonte, sono assolutamente faziosi e non corrispondono alla realtà. Guardi, che anche Cota ha detto che per quanto lo riguarda non ha parenti assunti. Ma lui no, però in consiglio regionale esponenti leghisti sì. Sì, però attenzione, se tu vinci le elezioni, siamo sempre pronti a dire che nel nostro paese abbiamo tanti problemi e di guardare all'estero come funziona. Bene, io faccio un esempio molto pragmatico. Vinci le elezioni, bene, tu devi governare, devi fare quello che hai promesso, se non lo fai ne paghi le conseguenze elettorali. Per quale motivo nel nostro paese non esiste lo spoil system, cioè che io ho vinto le elezioni, io decido chi sono le persone che ricoprono gli incarichi, poi quelle persone sono brave, vuol dire che ho scelto bene, quelle persone sono incapaci, ne pagherò le conseguenze in termini elettorali, così funziona la democrazia. La persona esclusa dall'incarico e che non è parente, magari altrettanto bravo, la domanda se la fa, insomma. Non è che stiamo parlando di ingegnere nucleare, stiamo parlando di una che risponde al telefono per conto di un assessore in regione Piemonte, quindi è ovvio che lì ci sia un rapporto fiduciario un po' particolare. Io non ci vedo nessun problema di quel tipo. Vabbè, staremo a vedere se poi magari ci starà anche qualche verifica anche della Corte dei Conti, non lo so. Comunque grazie, siamo in chiusura. Io volevo chiedervi un auspicio per l'anno prossimo a tutti e due, ma non c'è tempo perché c'è il giornale radio. Vi ringrazio, Irene Tinagli e Paolo Grimoldi, grazie, buon anno. La zanzara. 800 24 00 24, il futuro è dei giovani. Questa sera vogliamo parlare anche di questo: andare o restare in Italia. Abbiamo fatto sentire il parere di una professoressa universitaria giovanissima che lavora in Spagna, che quindi è andata e ne ha tratto profitto, e invece il coordinatore dei giovani padani che invita a restare, a costruire in Italia. Strade che possono anche convergere, naturalmente. Vogliamo sentirvi con i vostri interventi anche di pancia, anche con motivazioni, insomma, sentite, dure. Voglio sentirvi all'800 24 00 24 su questo. Tra poco sentiremo anche Napolitano, tra un'oretta circa, e poi i discorsi di augurio di Beppe Grillo e di Silvio Berlusconi. Intanto Sky TG24. Afghanistan, militare italiano ucciso da un cecchino mentre era di guardia. La vittima è il caporal maggiore Matteo Miotto del Reggimento Alpini di Belluno. Cordoglio del mondo politico, la russa rabbia per un solo colpo fatale. Battisti, Lula dice no, il Brasile nega l'estradizione per l'ex terrorista. L'ira del governo italiano, Frattini richiama l'ambasciatore a Brasilia. Profondo rammarico del Quirinale, questa sera il discorso agli italiani di Napolitano. Governo Berlusconi resta fiducioso e conferma, arriveremo a fine legislatura. Petardi esplosi davanti alla sede della Lega, un fermato e un denunciato. Ultime ore per i sacchetti di plastica da domani, solo buste biodegradabili. Capodanno, in Asia è già 2011, l'Italia si prepara alle feste nelle piazze. Le buste biodegradabili, avete sentito? Sono curioso di sapere quanti supermercati davvero saranno in grado di rispettare questo obbligo, a questo punto, di legge dei sacchetti che non possono più essere di plastica. TG3. Il presidente brasiliano Lula rifiuta l'estradizione per l'ex terrorista Cesare Battisti. Uno schiaffo per Roma che richiama l'ambasciatore. La russa in diretta al TG3. Napolitano, decisione incomprensibile e infondata, penso con dolore alle vittime del terrorismo, attesa per il messaggio di fine anno. Berlusconi su Battisti non finirà così. Finiani, questo produce la politica del cucù e delle pacche sulle spalle. Il PD, governo debole. Muore un soldato italiano in Afghanistan, l'alpino Matteo Miotto, 24 anni di Vicenza, ucciso da un cecchino, è la 13ª vittima dell'anno. Berlusconi, il voto anticipato esporrebbe l'Italia a rischi imprevedibili. Completeremo il programma, Bossi, avanti con le riforme. Dopo il no della FIOM a Mirafiori, diplomazia in cerca di una soluzione. Camusso, se vincerà il sì, dice la FIOM dovrebbe firmare. Finisce un anno denso di avvenimenti, dalla cronaca alla politica, dagli esteri allo sport, tutte le immagini più significative del 2010. Caro amico, ti scrivo. Le ultime parole dell'anno di Silvio Berlusconi e di Beppe Grillo, due personaggi che più diversi non potrebbero essere. Le abbiamo accostate così per creare un effetto, non so che effetto che farà. Cominciamo con Berlusconi, che rivendica i successi del governo quest'anno. Come governo la nostra parte l'abbiamo fatta. Nel pieno della crisi economica abbiamo garantito la pace sociale, abbiamo garantito la tutela delle classi più deboli, non abbiamo lasciato nessuno in difficoltà col suo lavoro senza una valida copertura economica, abbiamo mantenuto il rigore nei conti pubblici, abbiamo portato a compimento importanti riforme, tra cui quella fondamentale del federalismo, abbiamo realizzato la riforma dell'università, la riforma delle pensioni, la riforma della pubblica amministrazione. L'ottimismo di Silvio Berlusconi e il pessimismo forse di Beppe Grillo. Abbiamo bisogno di idee, abbiamo bisogno di innovazione e abbiamo bisogno di azzerare questa classe politica che è l'unica che non risente della crisi. Si sono aumentati i rimborsi ai loro giornali finti di partito, si sono divisi sino ad oggi quasi 1 miliardo di euro di rimborsi elettorali, chiamandoli rimborsi, non finanziamenti. No, il pessimismo no, lo spirito critico di Beppe Grillo. Sul futuro Berlusconi. Il nostro paese ha inestimabili risorse di intelligenza, di creatività, di capacità e può continuare ad essere una grande potenza industriale, garantendo ai propri cittadini anche per il futuro la prosperità economica nella democrazia e nella libertà. Ce la possiamo fare, soprattutto se sapremo mettere da parte le polemiche inutili e riusciremo così a realizzare quelle riforme che sono necessarie per il nostro futuro. Ce la possiamo fare, l'ottimismo ancora una volta di Berlusconi. E guardando al futuro invece Beppe Grillo invita proprio i giovani a seguire due strade alternative, sentiamo quali. Questa generazione ha solo due vie, o l'emigrazione o la rivoluzione. Siamo uno dei popoli più emigranti d'Europa, dopo i rumeni veniamo a noi. Con quasi 1.300.000 persone che sono andate via, ma sono andate via persone laureate, dove le famiglie si sono fatte un mazzo così per farli studiare. E infine due idee di sviluppo economico e di crescita della società, quella di Berlusconi. L'esempio della Fiat è emblematico, dimostra che se mettiamo la cultura della cooperazione fra imprenditori e lavoratori al posto del conflitto sociale e del conflitto politico, si possono mantenere le fabbriche in Italia e i posti di lavoro, e nello stesso tempo si possono anche aumentare i salari e le retribuzioni dei lavoratori. E invece l'idea di sviluppo di Beppe Grillo. Noi non abbiamo più bisogno di cemento, abbiamo bisogno di idee, di innovazione, di cose diverse. Abbiamo ragazzi per le strade che non scioperano per la legge sulla scuola o la legge Gelmini, scioperano perché non hanno futuro, non hanno casa, non riescono a mettere su una famiglia, non hanno prospettive. L'anno che sta arrivando, tra un anno. Di che cosa abbiamo bisogno guardando in avanti? Di fiducia, dice Silvio Berlusconi con una battuta quasi involontaria. L'Italia ha bisogno di stabilità di governo, ha bisogno di un confronto più sereno e rispettoso tra le forze politiche, fondato sui problemi reali da risolvere, ha bisogno di maggiore coesione sociale e soprattutto di fiducia nel futuro. e fiducia anche alla Camera e al Senato, perché soprattutto alla Camera, perché i voti sono pochi per ora. Berlusconi, vedremo se ci sarà l'allargamento tanto annunciato. Di che cosa abbiamo bisogno invece secondo Beppe Grillo? Abbiamo bisogno di intelligenza, non di energia atomica. Abbiamo bisogno, il carburante del futuro è l'intelligenza, e questa gente ha 70 anni, 80 anni, che dice Google invece di Google, che sono bisogna azzerarli, e bisogna azzerarli tutti. Ma qualcosa. Era proprio Berlusconi che aveva detto: quando devo vedere una cosa consulto Google, un errore forse involontario. Questi dunque i due pensieri messi a confronto, e tra un'ora circa sentiremo anche Napolitano, sappiamo parlerà anche di giovani, quindi abbiamo insomma involontariamente indovinato lo stesso argomento di Napolitano. La mancata estradizione di Battisti dal Brasile, il ministro La Russa. Non si illudano, è un affronto prima di tutto alle vittime, ma anche al governo italiano. Non si illudano che questo possa passare senza conseguenze. Ho sentito il ministro Frattini, noi faremo tutto ciò che il diritto consente per far cambiare ancora, ci speriamo, questa incredibile decisione di un governo che credevo amico e che evidentemente non lo è nella misura in cui lo abbiamo creduto. È una vergogna. Così invece Alberto Torreggiani, vittima proprio della mano armata di Battisti. Ho deciso insieme a Daniele Santanché, di cui ne faccio parte come movimento politico, abbiamo deciso insieme di fare i vari passi. Tra questi, quelli più importanti sono in primis un sit-in il 4 gennaio prossimo, 2011, alla sede del consolato brasiliano a Piazza Navona a Roma. Should I stay or should I go? Chiamate all'800 24 00 24, ci sono già alcuni interventi in linea, li cominceremo a sentire da subito per intervenire sul tema di questa sera, che volendo fare così un bilancio di fine anno è andare via dall'Italia per cercare fortuna o restare. L'Italia è un paese per giovani, che futuro hanno i giovani in Italia? Se ne è parlato molto nelle ultime settimane. Cominciamo con gli ascoltatori, andiamo a Roberto che chiama da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Volevo intervenire per quanto riguarda Cesare Battisti. Sì. Volevo dire che questa decisione non mi sembra che abbia sorpreso nessuno, e quindi ritengo sia una decisione attesa. E quindi in questo senso penso che il governo poteva agire prima, nel senso che per esempio Napolitano l'anno scorso ha scritto a Lula dicendo perché andava estradato Battisti. Non è stato fatto niente, già lì si poteva intervenire. Adesso, visto che è passato del tempo... Ma perché lei dice che non è stato fatto niente? A cosa si riferisce? Nel senso, si poteva far di più, nel senso che Battisti è tuttora in Brasile. Sì. Secondo me, quello che adesso ho sentito oggi, diciamo, queste prese di posizioni decise, se fossero state prese prima, probabilmente adesso Battisti sarebbe già in Italia. Comunque sia, adesso oggi ho sentito le parole decise da parte di Berlusconi, che ha detto non finirà così, delle parole decise anche da parte di La Russa, per cui spero che ci sia un cambio di rotta, per cui effettivamente si arrivi a questa estradizione. Ecco. Penso che comunque si sia perso del tempo. Grazie. Andiamo a Pancrazio da Bologna, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire in merito al fatto di andare o non andare. Sì. Nonostante sono una persona di quasi 50 anni, con una famiglia, una figlia già all'università, un'altra alle scuole, purtroppo non solo per come è andata l'annata, visto che lei ha indicato alla luce dei fatti del 2010, sì, ma in generale andrei anche domani mattina, io lo dico con una franchezza illimitata, e quindi non credo di coltivare molta speranza per come siamo messi in questo ma momento. Ma la speranza manca per sé, per la sua condizione, oppure più pensando ai figli? Dove andrebbe lei? No, io andrei francamente in un paese un po' del nord, tipo la Germania, un po' perché ho già conosciuto un'età più giovanile per esperienze lavorative, e poi perché, cioè, ripeto, io sto lavorando e mi ritengo ancora fortunato, anche se non più come una volta, però non lo metto nemmeno più. I suoi figli studiano all'università. Non lo metto nemmeno più sul piano personale, è per i figli, onestamente. E che prospettive hanno i suoi figli? Che cosa studiano i suoi figli? Mia figlia più grande è all'università, fa operatore sociosanitario, e l'altra figlia fa le scuole medie. quindi... Cioè non ho capito se andrebbe via lei o se inviterebbe i suoi figli a farlo. No, io inviterei loro, però siccome non hanno ancora, come dire, le risorse, sarei disposto a cambiare anch'io, ricominciando anche a lavorare da capo. Tanto con braccia, gambe e testa penso che si può fare di tutto. Questo è il mio messaggio. Grazie, grazie, buona serata e auguri naturalmente. Abbiamo la borsa, rientriamo tra pochissimo, 800 24 00 24. 19.31, naturalmente la borsa oggi, almeno oggi, sono in vacanza tutti lì a Piazza Affari e quindi non c'era la borsa, ma era l'abitudine. 800 24 00 24, abbiamo anche intenzione questa sera di sentire alcune, chiamiamole così, sentinelle nel mondo degli under 30, perché abbiamo pensato se non chiamano spontaneamente le andiamo a cercare noi, così sentiamo che cosa ne pensano. E allora la domanda è andare o restare e la giriamo alla prima sentinella che è Paolo da Verona. Should I stay or should I go? Giovane imprenditore, molto giovane, 26 anni, è possibile costruire un'impresa in Veneto? E voi ce l'avete fatta, di cosa ti occupi? E poi anche andare o restare, Paolo? Ciao a tutti, buonasera a tutti. È possibile, sì, con molti sforzi, con molti sacrifici e tanta fiducia, mettiamola così, nell'avvenire. Mm-hmm. Noi ci occupiamo di comunicazione, che peraltro è uno dei settori che le imprese, le pubbliche amministrazioni a livello di budget tagliano di più in questo momento di crisi, e quindi sentiamo molto. Ecco. Tre anni fa, quando abbiamo iniziato, la situazione non era questa, ma cerchiamo sempre un modo per... Sì, diciamo così. Tra l'altro creando lavoro anche in un settore creativo, quindi la comunicazione, che piace molto anche ai giovani, e quindi questa è una cosa positiva, insomma, si può fare. Sì, nel senso che una grande risorsa per questo paese sicuramente è la creatività e le idee, come abbiamo sentito prima, e quindi attraverso la nostra iniziativa abbiamo voluto dare una valvola di sfogo e metterci in gioco in prima persona in questo campo, ecco. Ma è vero che sei un avvocato fallimentare anche? Ti occupi di diritto fallimentarista? Sei un fallimento di avvocato? No, fallimentarista. Ma un praticante, sì. Un praticante. E state curando molti fallimenti? Cioè, come va lì la situazione in Veneto? Chiudono molte imprese? Ma per quello che vedo, sì. Cioè, non lo vedo solo dalla scrivania piena, ho un contatto sul territorio, volente o nolente, e vedo che non è solo il fallimento, ma è anche il settore dei pagamenti che devono essere ricevuti dalla pubblica amministrazione, i pagamenti che devono essere che devono avvenire tra imprenditori. Diciamo che c'è davvero una grossa difficoltà di circolazione del denaro, perché mancano le risorse o mancano gli aiuti, mettiamola così, ecco. Quindi sì, è un settore un po' delicato al momento. E alla domanda andare o restare, nel tuo caso naturalmente la risposta è implicita, avete un'impresa, quindi è ovvio che restate e lo fate credo con piacere, ma se non avessi questa attività, o se volessi dare un consiglio o motivare la questione che abbiamo posto questa sera. Dunque, io non avessi questa attività in piedi e non avessi anche preso questa strada professionale, andrei. Andare vuol dire comunque fare esperienza e magari lavorare sulla propria formazione, perché penso che non si possa fare a meno di entrare in contatto con realtà più grandi del nostro paese, o diverse, transnazionali. Quindi andare e poi magari cercare di tornare, perché questo paese in qualche modo deve pur migliorare, quindi finché ce n'è magari si tiene botta, poi quando si vede che le cose o che si vogliono fare determinati investimenti su se stessi, secondo me andare è una buona soluzione. È sempre un investimento. Grazie, grazie. Allora Paolo, 26 grazie anni, a voi. Anche se la voce dimostrava forse 10 di più, ma mi garantiscono che ha 26 anni veramente. Garantito. Grazie, buona serata e buon grazie anno. Grazie a voi, auguri. Torniamo agli ascoltatori. Massimo dalla provincia di Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Intanto volevo esortare il direttore della vostra bella radio a sostituire Cruciani con lei, perché per noi orfani di Sant'Almassi sì, ma mandi tante lettere firmate, mi raccomando, io sono d'accordo. È qualche anno che ma no, ma no, ma non è questo. Arroganza, si sente, sì, sì. Insomma, va bene. Poi voglio parlare io dei Di Battisti. Sì. Io sono scandalizzata alla pari di tutti gli altri, di molti altri italiani, quasi tutti, alla pari di tutti gli italiani. Penso anche che sia una vergogna per le vittime, per questo ragazzo che da 15 anni è rimasto in carrozzella, eccetera. Gli unici che secondo me non sono motivati a essere scandalizzati sono i nostri politici, i nostri il Presidente del Consiglio in prima persona e poi tutti i ministri del suo governo, perché loro i reati gli danno fastidio tutti quelli che non commettono loro, ecco. In che senso? Perché quelli che i reati che commettono loro gli va bene accorciare i tempi di prescrizione, depenalizzarli, eccetera. Per questi reati qua, giustamente, allora si sdegnano. Però, ecco, gli volevo dire che prima di sdegnarsi di... Ma mi pare che lo sdegno sia abbastanza condiviso in Italia. Certo, non è condiviso questione anche da me. Però, ecco, dobbiamo ricordarci che ce n'è tanti di delinquenti a giro e hanno messo loro, e non solo, ecco, Battisti, che è uno dei peggiori, quello lo posso garantire. Però... dovrebbero farsi intanto un esame di coscienza e se uno gli garantista per alcuni tipi di reati dovrebbe essere per tutti. Sì, ma qua mi pare che il garantismo, grazie comunque, il garantismo non c'entra, è stato condannato e Battisti, anche se in contumacia in 4 processi per 4 omicidi, e la giustizia italiana chiede a questo punto di poterlo assicurare a se stessa. Non c'è riuscita con la Francia, non ci sta riuscendo con il Brasile, dove secondo me forse si fraintende l'epoca degli anni di piombo con quello che ha vissuto il Brasile, l'ho detto anche ieri sera, la dittatura militare, e quindi, però era una cosa diversa naturalmente, lì c'è stata poi un'amnistia, ma perché il Brasile ha vissuto una storia diversa e forse c'è un fraintendimento su questo. Cristian da Pisa, buonasera. Sì, salve. Prego. Allora, niente, per quello che riguarda Lula, in effetti, quello che sentendo i giornali, i telegiornali, quello che non riesco a capire è come mai non dicono il perché non viene riconsegnato all'Italia. Nel senso, si dice il Brasile non riconsegna Battisti all'Italia. Perché? Grazie. E perché glielo dico io? Cioè, glielo dico io. Quello che l'unica frase che ci porta in questa direzione è quella, credo, del chi era il ministro degli esteri, sì, brasiliano, che ha detto nel momento il nostro paese è stupito per la reazione italiana, perché nel momento in cui si creano situazioni particolari che possono generare rischi per la persona è Battisti, nonostante il carattere democratico dei due stati, rischi per la persona, questa è l'unica cosa che è emersa. Abbiamo un'altra sentinella all'800 24 00 24, un altro under 30, Piero da Orvieto, è così? Sì, aspirante avvocato. Aspirante avvocato, sì. Come va con questa aspirazione? Gli studi come vanno prima di tutto? Gli studi procedono bene, adesso in questo momento... È in vacanza, naturalmente. Sono in vacanza, beh, mica tanto, ho staccato oggi a pranzo dal lavoro. Adesso mi trovo, sto lavorando in un ufficio legale di una grossa banca e allo stesso tempo faccio anche la pratica in un ufficio privato, sempre legale, insomma... La volontà c'è tanta, però il momento, insomma, a livello professionale per i giovani non è dei migliori. Tra l'altro gli avvocati, insomma, in Italia si dice che sono addirittura troppi, ma io non è che voglio gufargliela, però anzi sicuramente ci saranno settori, nicchie, sì. Nella provincia di Roma ci sono più avvocati che in tutta la Francia, per cui sì. Diciamo che... Ma chi gliel'ha fatto fare di mettersi su questa strada allora? Lo dico amichevolmente, scherzando. Ma a me piaceva la professione, sono stato sempre affascinato da questa figura fin da piccolo, e ho cercato e sto cercando tuttora di... C'ha qualche parente avvocato, no? No, non ho nessuno, infatti è ancora più difficile. Caparbio comunque... proprio, sì. Sì. Dico caparbio. Quindi... Caparbio, sì, sì, anche infatti anche a caso ogni tanto me lo dicono, ma chi te l'ha fatto fare, però sono dell'idea che uno quando è giovane deve cercare di inseguire i propri sogni e le proprie aspettative, sono ancora abbastanza giovane, per cui cercherò ancora di perseguire questo obiettivo. A domanda andare o restare, cosa ci risponde? Ma ad andare per fare nuove esperienze, confrontarsi anche con culture diverse, con esperienze anche professionali completamente nuove, mi piacerebbe sicuramente, però in prospettiva come stile di vita, come livello di vita, mi piacerebbe rimanere comunque in Italia, perché comunque nonostante le mille polemiche, i mille difetti che può avere il nostro paese, io sono innamorato insomma del nostro paese, mi trovo bene e poi lì a Orvieto in Centro Italia si sta benissimo. Grazie, io prego. Ti ringrazio anche Paolo da Orvieto, e la domanda è andare o restare? Feste. Anche a te, auguri. Should I stay or should I go? E salutiamo anche Spinoza, il blogger di grande successo e autore di molte vignette, battute che fanno sorridere. Buonasera. Buonasera, salve a tutti. Hai sentito i temi della serata? Non so se c'è già qualcosa. Io ho sentito, intanto qualche cosina di caldo appunto, sì, sul fatto dell'estradizione sì e estradizione no a Cesare Battisti. Si può dire che l'Italia già prevede ritorsioni, visto che l'estradizione sembra che non avverrà. L'Italia prevede una ritorsione durissima contro il Brasile, pare che la nuova multipla verrà prodotta lì. Veramente un gesto veramente terribile. Dopo la Duna anche la multipla. Esatto, certo. Il PD ha fatto un appello a Lula affinché conceda l'estradizione. Quando c'è odore di battaglia persa, il PD ci si butta a capofitto. Non so se anche questa non è male, Spinoza. Sì, ben arrivato. Resta qua, proseguiamo con qualche ascoltatore. Chi abbiamo? Benito da Vicenza. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Pronto? La sentiamo pronto? Forte e chiaro, sì. Bene, bene, bene. No, io ho chiamato per dire una cosa semplice, no? Io dico che non abbiamo esempi, secondo me, di serietà, nel senso che io ritengo che una classe politica, una classe dirigente dovrebbe avere a volte il coraggio di ammettere i propri errori. Anzi, io direi una cosa, no? La mancanza di prospettiva sta in questo, che abbiamo una classe politica troppo brava. Tutti sanno fare tutto e tutti saprebbero fare tutto. Poi nella realtà dei fatti cambiano i nomi, ma i problemi si rimangono sempre quelli. Io invece dico, non affezioniamoci alle nostre idee, ammettiamo i nostri errori e cerchiamo di cambiare. E questo non lo sento da parte di nessuno. Per questo io vedo un futuro non molto roseo per il nostro paese. Se io avessi, guardi, meno di 30 anni me ne andrei subito. E invece? E invece sono questione qua, di età. Lavoro in questi giorni, per fortuna lavoro anche tanto, in questi giorni sono stato con mia moglie a fare la spesa qualche volta, sì. Prima non ci potevo. Ho visto prezzi che sono veramente incredibili per uno stipendio medio. E la prospettiva è non solo i prezzi elevatissimi, è una piccola parte questa, servizi che se non vai fuori nelle orari di lavoro, sa, noi abbiamo i PAR, no? Permessi aziendali retribuiti, per andare in un ufficio pubblico, quindi lo Stato o chi per esso paga due volte la stessa cosa. Nessuno dice, non so, spostiamo gli orari magari dalle 7 oppure portiamo alle 7 oppure portiamoli avanti fino all'1 oppure portiamoli avanti fino alle 6 di sera, in modo che una persona prima lavora nel privato e poi vai a fare i propri servizi nel pubblico. Questo non l'ho mai sentito. Per questo dico, sono molto amareggiato e penso che il futuro qui per i giovani ce ne sia ben poco. È un po' grave. A meno che queste persone non abbiano il coraggio di dire, bene ragazzi, noi abbiamo sbagliato, ci togliamo e per il bene degli altri, ormai il nostro ce lo siamo portati a casa, sì, che vada avanti qualcun altro. Grazie, io non ho ancora capito se i giovani devono essere invitati al tavolo delle decisioni importanti o se devono conquistarselo da soli. Spinoza, qualche cosa per tirare sul morale un po' questo ascoltatore? Diciamo che c'è poco, chiaramente ci sono vari motivi per restare, come hanno detto già tutti, e vari motivi per andarsene. Un buon motivo per restare è perché se vai all'estero è più probabile che tu capiti vicino di casa di Berlusconi, per cui restando in Italia in una delle numerose residenze del Premier. Esatto, quindi restando in Italia questo rischio è molto minore. Altro motivo per restare in Italia è perché se tu ami gli animali, i TG ti riempiono la giornata di servizi sui cani, per cui è molto anche importante che questo argomento degli animali venga trattato nell'informazione di alto livello. Motivi per andarsene ce ne sono. Un motivo per andarsene alla svelta è perché presto probabilmente gli altri paesi non ci permetteranno più di uscire, per cui direi di fare la svelta, perché chiudere le frontiere si dice, ma magari sono gli altri che chiudono, capite? Quindi non è che l'emigrazione è solo da una parte. e soprattutto un altro motivo per andare all'estero è per vedere da vicino dove fanno le Fiat. Ecco, questo è un altro motivo, secondo me, che può essere anche interessante a livello didattico, diciamo, vedere dove fanno una Fiat, uno cerca di trovare il posto, poi le trova, appunto, per ricollegarci al discorso sì, di prima. Sì, sì, come sopra. Grazie, fermiamoci un attimo, abbiamo il traffico e poi un prestigioso ospite. Il prestigioso ospite è Matteo Manassero. Buonasera. Buonasera a tutti. Molti a casa diranno, chi è? no, come chi è? Molti lo conoscono, ma gli altri lo conosceranno presto. Chi non si interessa di golf è rimasto un po' indietro, perché non so esattamente come si pronuncia. Rookie of the Year? Sì, giusto. Il golfista dell'anno? Il golfista giovane dell'anno. Il giovane golfista dell'anno. Cioè lei in questo sport, che in Italia sta montando moltissimo del golf, anche se fino a qualche anno fa un po' snobbato, è un ragazzo di 17 anni che gira il mondo, copertine, giornali, vince, insomma, anche premi, immagino, in denaro. Lei è un giovane, tu sei, diamoci del tu, ti do del tu perché è sì, giusto, certo. Che si è realizzato già e quindi, insomma, che cosa si prova prima di tutto a realizzarsi? Ma è una sensazione bellissima, ovviamente la parola realizzarsi è un po' grande, nel senso che uno sportivo quando raggiunge degli obiettivi ogni volta immediatamente se ne pone degli altri più grossi e più importanti, però il 2010 è stato un anno che sicuramente mi ha mandato alla ribalta, è stato un anno speciale assolutamente, quindi sono molto contento. Tu sei partito proprio determinato, perché nelle tue schede si legge che hai iniziato a giocare a golf a che età? A 3 anni ho iniziato, cioè, i primi tiri li ho fatti a 3 anni. Ma neanche stavi in piedi, scusa, come facevi a giocare a golf? No, è vero, neanche stavo in piedi, però era una passione che è dentro di me, quindi ho deciso di... Sì. Ti è arrivata da qualche genitore, parente, zio, diciamo, qualcuno? Diciamo che il golf non era esattamente in famiglia, però ho iniziato proprio per una passione mia, nel senso ero io che volevo andare al golf e tirare i primi colpi, quindi... Così è iniziato e così ci sono arrivato qui. Non ti sei mai chiesto perché il golf e non il tennis? Non lo so, un altro sport? Non me lo sono chiesto, perché ho sempre visto il golf uguale a tutti gli altri sport, quindi penso che sia uno sport come tutti gli altri, ed essendo eccellendo in questo non mi sono mai chiesto di... Cioè, finché va tutto bene, perché farsi delle domande, giustamente. Esatto. Al tema della serata, così, che abbiamo voluto dare, andare e quindi all'estero e cercare fortuna o restare in Italia e costruirsi qua un percorso, mi pare che la tua risposta, poi me la dai, è quella, tutte e due, insomma, perché nel tuo caso il percorso credo che sia... Diciamo che io sono cresciuto golfisticamente, sono migliorato, cioè sono cresciuto in Italia e adesso ovviamente le gare sono in giro per tutto il mondo, quindi mi sto fermando come giocatore italiano, però mi sto fermando principalmente all'estero, perché le gare nel nostro sport sono là. Senti, ma con gli studi come va? Voglio dire, riesci a fare tutto? A conciliare? Privatamente, facendo esami, senza obbligo di frequenza, riesco a portare avanti anche la scuola, però è la cosa più difficile, insomma, da portare avanti in questo momento per me. E l'università rientra tra i tuoi orizzonti? No? Perché ti voglio fare una domanda. Sarebbe troppa carne al fuoco, troppo complicato. Hai visto nelle ultime settimane i ragazzi poco più grandi di te che hanno protestato con questa questione della riforma Gelmini? Che impressione ti facevano? Tu che sei uno sportivo che ti concentri, massima concentrazione, allenamento per avere grandi performance, grandi risultati, vedere questi ragazzi che si liberavano delle loro energie in tutt'altra maniera, andando in giro a protestare, a urlare, a gridare il loro sconforto. Sono ovviamente due vite diverse, sono vite completamente diverse, e loro lottano per i loro ideali, per i loro sogni, insomma, anche protestando è il loro modo per riuscire a farsi sentire, purtroppo. Io ovviamente... Quindi li rispetti? Assolutamente. Io vivo un altro tipo di vita, nel senso che faccio uno sport in cui sono io, diciamo, tra virgolette, a decidere il mio destino. In certi casi per alcuni ragazzi non sono loro. E quindi li rispetto assolutamente. Ovviamente ogni tanto succedono delle cose che non dovrebbero succedere, sì. Però penso che molti di quei ragazzi, non tutti, però sentissero quello che la protesta che stavano facendo. Alla luce proprio anche della tua esperienza in Italia e all'estero, Matteo Manassero, ti chiedo, l'Italia è secondo te un paese per i giovani dove ci si può realizzare o ci sono altri posti dove hai visto dei ragazzi che facevano più in fretta ad arrivare? Ma, sì, secondo me ci si può fermare ovunque, ci sono dei paesi in cui è più facile, i paesi nordici, gli Stati Uniti, sono paesi in cui che danno investono di più soprattutto dal punto di vista sportivo e dal punto di vista anche degli studi, perché i college americani penso che siano una cosa che per un giovane danno tantissimi aiuti e soprattutto ti aprono tantissime strade, quindi ci sono paesi in cui secondo me un ragazzo si afferma più facilmente, però se il ragazzo ha veramente qualità penso che si possa affermare dappertutto. E con questa speranza, grazie Matteo Manassero, giovane golfista dell'anno del 2010. Grazie a tutti. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? La canzone dei Clash, Andare o Restare, è un po' il tema di questa sera, 1953 800 24 00 24. Ascoltatori, Antonio dalla provincia di Alessandria, buonasera. Buonasera, io sono rientrato in Italia da alcuni giorni, sono stato 6 mesi in Cile, a Concepción, a lavorare dove c'era stato quel terremoto a febbraio. È stato più che altro un caso, nel senso che io avevo lavorato un anno dopo l'università come architetto a Milano, mi l'ho trovato bene tutto, però volevo crescere un pochino professionalmente, diciamo che mi era andata bene dopo l'università, non avevo avuto grandi problemi e avevo cercato uno studio che mi piacesse e non avevo fatto differenze geografiche, quindi l'avevo cercato dove capitava, insomma, e all'ultimo ho deciso tra andare in Cina e andare in Cile, alla fine sono andato lì. Sì. Ed è stato molto importante. Una specie di volontariato internazionale? No. È stato un caso il fatto che ci fosse appena stato il terremoto, anzi forse era stato il terremoto aveva un pochino aumentato. Ah, quindi il motivo non è stato quello, il motivo è stato proprio un'esperienza di lavoro? Esatto. Ed era stato il terremoto era stato un caso, che fosse capitato lì poco prima. Diciamo che forse aveva aumentato le possibilità di lavoro in uno studio di architettura. Ma nel tuo caso andare all'estero serve per imparare delle cose da rivendersi poi in Italia o per proprio trovare una via di fuga in qualche modo che prima o poi si realizzerà però all'estero? Ma allora, cercavo da un lato di migliorare e dall'altro di trovare una condizione un pochino più serena rispetto all'Italia e quindi un posto dove potessi concentrarmi un pochino di più, perché non che in Italia non sia possibile, però finita l'università con un po' di pressioni della famiglia, con la situazione del lavoro che era insomma che era come era, avevo cercato una condizione, non dico di esilio, però di una condizione che mi permettesse di concentrarmi un pochino di più. Poi una volta là ho capito un sacco di cose, nel senso che il Cile non è un paese, non è come andare in Germania, non è come andare nel nord Europa, eccetera. Però è un paese un po' diverso. Certo. Però è un paese emergente e sì. ci sono grandi energie. Io lo studio dove ho lavorato è di una coppia che è giovane, loro due hanno 37-33 anni mi pare, sì. Di architetti che sono stati invitati alla Biennale di Venezia, quindi bravissimi, e il mio consiglio è quello di uscire proprio per riuscire un attimino a distogliersi un pochino dal chiasso italiano, del mediatico, della politica. Insomma, cercare la propria strada a volte può essere più facile concentrandosi su un terreno diverso dal solito straniero. Grazie anche a questo giovane ascoltatore. 824 0024, dove ci porta Marcello da Catania. Buonasera. Buonasera a voi, buon Capodanno. Auguri a tutti. Sentivo il radioascoltatore poco fa, diciamo da poco tornato dall'America del Sud, anch'io sono tornato da pochissimo all'America del Sud, sono stato a Rio de Janeiro Ho vissuto clima meraviglioso, si sa, beh, ma è tutto spiagge, fantastico. Certo, così è facile, dice. Andate tutti in Brasile sulle spiagge di Copacabana. Beh, ma cosa faceva lei? Lavorava peraltro, o turista? Peraltro io risiedevo a Ipanema, quindi se è possibile ancora meglio, ammesso che ci sia un termine di paragone per le due spiagge, perché sono fantastiche. Non esageri, io... perché sennò ci viene un po' troppa invidia. Ma era turismo o lavoro? No, no, era assolutamente lavoro. Il secondo mese di docenza presso la Unigran Rio, che è una università parastatale. E come si fa a diventare docenti dell'Università di Rio? È un po' complicato, perché sono i corsi che il Ministero del Lavoro, l'Italia, per perequare i finanziamenti che sono stati elargiti ad ampie mani, peraltro, qui in Unione Europea, in passato ai cittadini appunto europei, per perequare, diciamo, questa condizione, vengono finanziati, quindi vengono banditi tutta una serie di concorsi per le imprese pubbliche, soggetti privati, eccetera, proprio per somministrare formazione lì con una serie di temi specifici. Nella, appunto, nella fattispecie noi stavamo seguendo un tema di, legato allo startup di impresa, dedicato a cittadini italiani residenti in Brasile, seconda, terza, quarta generazione. E quindi ho avuto modo appunto di fare aula di marketing, gestione delle risorse umane, ma questo, diciamo, a corollario di un percorso molto più antico, se vogliamo, perché ho cominciato a internazionalizzare appunto con il Brasile all'epoca in cui facevo politica. Vabbè, insomma, lei ha trovato la sua strada. Faceva politica, cosa c'entra adesso? Facevo politica, ho vissuto un'esperienza interessante, ho fatto per 5 anni il consigliere comunale, per 3 anni l'assessore, però... Ah, scambi con il Brasile, insomma, è nato. Poi ha trovato la fidanzata. No. Allora, lo scambio, intanto noi abbiamo... No, vabbè, ma adesso era per scherzare, insomma, che il caso l'ha portata attraverso la sua esperienza in amministrazione in Brasile, poi lì ha trovato anche uno sviluppo lavorativo. Grazie, io voglio dare spazio un po' a tutti, per cui saluto anche Marcello e voglio sentire chi abbiamo. Nicola da Bari, che era anche uno sketch, Nicola di Bari. C'è un cantante, Mara. Sì. Nicola, buonasera. Sì, buonasera. Beh, diciamo che esattamente sono di Acquaviva delle Fonti. Così. Sì. Non mi confondo con quello di Bari. Esatto. Prego. Senta, io, ecco, mi viene facile un pensiero. Quando la nave sta per affondare, tutti i topi scappano. Ai, prima o poi me l'aspettavo che qualcuno dicesse questa frase. Insomma, abbiate pazienza, perché fuggire dall'Italia? Noi abbiamo fatto arricchire le altre nazioni, quali la Francia, la Germania, l'Inghilterra, con i nostri emigranti che tanti anni fa con la valigia di cartone hanno fatto la ricchezza di queste nazioni. La valigia di cartone, immagine classica. Resti in attesa, facciamo una brevissima pausa e poi la facciamo proseguire all'800 24 0024. Tra 30 minuti circa il discorso di Giorgio Napolitano, intanto titoli del TG1. Il presidente brasiliano Lula nega l'estradizione di Battisti, crisi diplomatica, ha richiamato l'ambasciatore italiano al TG1, il fratello di una delle vittime. Caso Battisti, Napolitano, contrarietà ed amarezza, Berlusconi, vicenda non è chiusa, continueremo la nostra battaglia. Lutto per i nostri militari in Afghanistan, ucciso da un cecchino il caporal maggiore degli alpini Matteo Miotto, aveva 24 anni. Un anno di sangue e di paura per i cristiani nel mondo, ieri le ultime due vittime in una serie di attacchi a Baghdad. Si chiude il primo decennio del nuovo secolo, ricostruiamo i grandi fatti nazionali ed internazionali dell'ultimo anno. Mancano poche ore al nuovo anno, nel mondo si festeggia già, da Sydney a Tokyo e Hong Kong, il 2011 è già arrivato. Gli italiani, molti sono in vacanza, ma la maggioranza è in famiglia per il cenone nel rispetto della tradizione. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Quando la nave affonda, i topi ballano, no? I topi se ne vanno, dice il nostro ascoltatore che abbiamo in linea e che ci stava spiegando perché non bisogna andarsene. Sì, assolutamente no, perché voglio dire, per tutto il mondo siamo il bel paese. Possibile mai che dal bel paese si debba scappare? È un controsenso. È chiaro che quando c'è una difficoltà in una famiglia, in un'azienda, in una nazione come in questo caso, tutti i componenti di queste entità devono darsi da fare per superarlo il problema. Lo so, però è un controsenso, però è così, cioè se uno si trova a non avere sviluppi, a non avere sbocchi per la propria percorso, per la propria crescita professionale, non solo, un giovane non è che dice siccome siamo nel bel paese sto qua a guardare le bellezze del paese. Assolutamente, assolutamente, deve cercare con l'unico sistema, con l'unico mezzo che ha, che è quello del voto, deve cercare di creare una classe politica evidentemente diversa, ma comunque molto simile a quella attuale, perché sta dimostrando questa classe politica di saperci fare, di voler fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma purtroppo siamo in un periodo, e questo è inconfutabile, siamo in un periodo in cui sono in crisi le più ricche nazioni del mondo e non vedo perché non dovremmo, cioè noi dovremmo esimerci da questa crisi. Bisogna superarla magari insieme anche all'Europa. Beh, sarebbe bello potersi esimersi, ma l'Italia non si esime, anzi. Grazie, appunto. grazie anche a lei. Andiamo a Giorgio da Piacenza. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sono solo al telefono, non sento la radio, quindi non ho sentito i vari ascoltatori, però sono molto d'accordo con l'ultimo. Sì. Anche perché io ho 67 anni, però ho girato circa 20 anni all'estero con periodi lunghi di presenza dal Medio Oriente, Estremo Oriente e Centro America. Allora, oggi come oggi... Cioè, mi scusi, lei è stato 20 anni all'estero, però è d'accordo con chi dice che bisogna stare in Italia? No, cioè, adesso mi spiego meglio. Cioè, sì. L'estero ormai si presenta un po' come la casa del vicino, con i mezzi che ci sono, con sì. I collegamenti di lavoro, quindi la globalizzazione... Io oggi, se avessi qualche anno in meno, sarei sicuramente all'estero, quindi l'estero va visto come non come una città lontana un po' di chilometri, però... ma quasi, voglio dire, cioè è a portata di mano. Sì. Quello che secondo me invece è importante, non vedere andare all'estero, viene prendere tutto, famiglia, tutto quello che si ha e recarsi in un altro posto, perché come diceva l'ultimo ascoltatore, i problemi non è che non ci siano, ci sono, forse in alcuni casi anche peggio di quello che abbiamo noi. Quindi vedere l'estero come un'infinita opportunità di presenza. Ho capito quello che lei dice, sì, però guardi che ci sono una serie di indicatori che parlano chiaramente sul fatto che insomma l'età media in Italia in tanti campi è troppo alta, è più alta, che quindi oggettivamente ci sono paesi dove per i ragazzi si fa prima. Comunque grazie, abbiamo i titoli della 7 e poi di nuovo gli ascoltatori e un altro atteso ospite, TG della 7. Cesare Battisti resta in Brasile. Nelle ultime ore del suo mandato il presidente Lula beffa l'Italia e nega il rimpatrio all'ex terrorista condannato, non dimentichiamolo mai, a 4 ergastoli. Durissima la risposta del Quirinale. Napolitano esprime amarezza e contrarietà per una decisione incomprensibile. L'Italia continua la sua battaglia, annuncia Berlusconi, la Farnesina richiama l'ambasciatore. Un nostro soldato muore in Afghanistan, centrato da un cecchino. Si chiamava Matteo Miotto, 24 anni. Alpino, era di guardia a una torretta. Il ministro La Russa, troppi lutti tra i nostri soldati. Un arresto, due denunciati a Gemonio per le bombe carta davanti alla sede della Lega, a pochi passi dalla casa di Umberto Bossi. Questi sono i nuovi fascisti, dice il leader del Carroccio. Via i rifiuti entro questa sera. Napoli aspettava il miracolo che puntualmente si è verificato, come quello di San Gennaro, ma laico. Ma nelle strade restano ancora cumuli di spazzatura. Per tutta la notte sarà aperta la discarica di Chiaiano. Marchionne, Assange, Mourinho, ma anche il cardinale Tettamanzi, sono tutti incoronati uomini dell'anno da quotidiani e riviste che lanciano i loro candidati in uno spazio mediatico un po' vuoto in attesa del nuovo anno. E a proposito, alle 20.30 arriva il messaggio del capo dello Stato, attesa per le parole di Napolitano alla fine di un anno, francamente, con poche soddisfazioni. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Andare o restare? 800 24 00 24. Voglio salutare Luca Cafagna. Buonasera Luca. Buonasera a tutti, salve. Studente 26enne, uno dei volti della protesta degli studenti. Il tema è questo. Vigliacchi. Il tema vigliacchi. È il fatto. Lei è un vigliacco. Scusate, lei è un signori magistrati. Un bifone, vigliacco. Ma guardi, lei è un bifone. Luca, abbiamo voluto ricordare quel momento di tensione così anche alla trasmissione dell'anno zero di Santoro, quando c'è stato questo scontro con il ministro La Russa. Pronto? Sì, ma in quello. Hai avuto paura perché La Russa c'ha i cannoni dell'esercito, pronto? Quindi pronto, sì. Sì, scusate che non sento, sì. Non sento bene. Dopodiché credo che la tensione in quell'occasione sia stata ancora una volta tutta dalla parte di un esponente del governo che si è trovato, purtroppo per lui, ad insultare uno studente da ministro di fronte a milioni di telespettatori, quindi diciamo tensione che appartiene ad altri, non apparteneva di certo a me in quell'occasione. E anche da navigato, come dire, abituato agli studi televisivi, sicuramente quello sì, rispetto a uno studente che era la prima volta che si trovava in uno studio TV. Io vorrei chiederti questo, Luca: riforma approvata ieri, firmata da Napolitano, ne è valsa la pena di protestare contro? Ma sicuramente ne è valsa la pena, anche perché voglio dire, la partita ancora non si è chiusa, chi magari segue di più l'iter della riforma sa che ci sono decine di decreti attuativi che devono essere approvati, e quindi di fatto la riforma ancora non parte e non partirà molto probabilmente prima di alcuni mesi. Detto questo, ne è valsa e ne vale tuttora la pena anche per un altro motivo, perché il fatto che decine di migliaia di giovani nel paese siano tornati a far sentire la loro voce e a rimettere al centro dell'agenda politica del paese il tema di una generazione senza futuro, quindi un tema che è fatto di diritti, è sì. Fatto di democrazia vera, che ha a che vedere con le possibilità concrete della vita delle persone e degli studenti nello specifico, non credo sia un fatto da poco. Tre mesi fa il dibattito politico nel paese era tutto schiacciato sulla casa di Monte Carlo, oggi parliamo. Questo è vero, si parla anche d'altro, però sul protagonismo degli studenti poi voglio farti due domande. Voglio chiederti se è questo il protagonismo dei giovani o se deve essere anche quello di realizzarsi nei propri percorsi professionali, individuali, oppure se l'unico modo per dare un protagonismo ai giovani è quello di mettersi in piazza a protestare. Poi qualcuno ha detto una riedizione dei loro genitori, però questo tra un attimo, prima una pausa e poi le due domande a Luca Cafagna. Luca Cafagna, la prima cosa che voglio chiederti però è questa: cosa vuoi fare da grande? Qual è il tuo sogno? Ma guardate, io volevo fare il ricercatore. Però credo che in questo momento la questione sia abbastanza difficile. Ricercatore in che campo, in che ambito? Ma io studio scienze politiche, quindi avrei voluto occuparmi di uno studio di ambito giuridico, magari di diritto costituzionale. Evidentemente in questo caso e in questo frangente probabilmente la carriera di ricercatore non è da consigliare a nessuno, ecco, dopo l'approvazione di una riforma che prevede sostanzialmente la precarietà a vita piuttosto che la dismissione dopo 6 anni. Ma su questo fatto del protagonismo, oggettivamente è vero, si è parlato per settimane, si sono visti i volti degli studenti scorre sui giornali, nelle televisioni, si è, come dicevi tu, l'agenda politica ha un po' cambiato argomenti, ma è questo il, come dire, il protagonismo dei giovani, oppure non sarebbe bello poter parlare in altri ambiti del... E poi qualcuno dice: ma voi siete andati lì copiando quello che facevano i vostri genitori, cioè una riedizione di un passato e non una vera novità, insomma. Qualcuno ha detto anche questo. Ma sulla, diciamo così, sul problema della realizzazione o del protagonismo giovanile, certo, tutti noi vorremmo realizzarci in varie forme e in vari modi, sia nelle forme collettive che abbiamo scelto scendendo in piazza piuttosto che discutendo tutti assieme nelle facoltà, piuttosto che da un punto di vista lavorativo o professionale, ma mi sembra che rispetto agli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile, che ha sfondato il 25%, cioè più di un giovane su 4 in Italia non ha un lavoro, neanche in nero, credo che diciamo così, parlare di realizzazione professionale sia molto difficile in un paese in una crisi economica drammatica come la nostra. Evidentemente ciascuno di noi singolarmente dovrà fare i conti con questa cosa, ma credo che la sfida sia anche affrontare un problema come questo non solo da un punto di vista individuale, ma da un punto di vista di tutela anche collettiva dei diritti. Certo, questo sulla seconda cosa, sì. Sulla seconda cosa, voglio dire, è una riedizione del passato piuttosto che l'edizione di una cosa nuova. Su questo non lo so, la cosa che magari è più interessante dei mesi che abbiamo vissuto è stato il fatto che secondo me è stata sì una cosa nuova, soprattutto ha prodotto delle conseguenze importanti. Poi il tema mi sembra anche un po' diciamo così, è un tema di discussione che per esempio tra noi non abbiamo mai affrontato. Ci siamo sempre preoccupati più che altro di ottenere degli obiettivi e di costruire dei percorsi veri. Va bene, allora fermiamoci qua. Luca, 20 e 15, facciamo una pausa, questa volta sì, per il traffico. Auguri e buon anno a te personalmente, anche agli studenti anche che ci ascoltano. Ciao Luca, buona serata. Should I stay or should I go? Ma io speravo di sentire anche un po' di discorsi di pancia qua, però mi sembra anche di sentire... così anche tanta teoria, per amor del cielo, un po' da parte di tutti, ma anche da chi invece ci si aspetterebbe un po' di frizzantezza e un po' di freschezza, proprio in quanto giovani all'ascolto. 800 24 00 24. Andiamo a Marco, gli ascoltatori, che ci chiama da Ascoli Piceno. Buonasera e complimenti e auguri per il nuovo anno. Ma io sono veramente amareggiato, io sono un ufficiale della Marina Mercantile, ho navigato, ho lavorato anche tanto tempo con società all'estero, ho visto che comunque in Italia il sistema di meritocrazia non esiste più. Purtroppo sto vedendo che nel mio settore le grandi società preferiscono prendere personale straniero, diciamo anche del terzo mondo, e non far navigare ufficiali italiani. Ma per una questione di stipendi o per una questione di professionalità? Cioè pagano meno oppure perché sono più preparati? Guardi, le posso dire questo, che sinceramente ci sono ufficiali indiani che sono preparatissimi, le scuole investono molto, danno veramente dei grandi incentivi all'istruzione, mentre in Italia per esempio si stanno chiudendo gli istituti nautici, una cosa assurda, nessuno vuole fare più questo lavoro. Nessuno vuole comunque più navigare, nessuno vuole andare sugli yacht, nonostante che sia un bellissimo settore. E vedo che tanti giovani sono esasperati perché comunque non riescono a trovare a terra un buon contratto e si imbarcano. E gente anche che comunque ha una laurea si mette a fare il marinaio, il mozzo, cioè cose assurde. Sto vedendo delle cose. Io sinceramente mi sento molto italiano, amo molto il mio paese. È ora da schiodare, secondo me, questa gente dalle poltrone e dare veramente una botta di freschezza. Io sinceramente vedo che all'estero i giovani sono più incentivati. In Italia si va via a malincuore, ma purtroppo se si vuole cercare una strada. Io non sono voluto andare via, sono stato a lavorare fuori ma sono ritornato. Quindi sono soddisfatto della mia scelta. Però insomma ha fatto il suo percorso. Grazie, mi sembra che stasera trionfi l'idea dell'andare e tornare, tutti e due. Spinoza, blogger, di nuovo con noi? Sei tornato? Rieccoci qua, sì. Come fanno i marinai, può essere la parafrasi di quest'ultima, sì. Quest'ultima telefonata, non se la passano bene nemmeno loro. Comunque, posso ricordare che Spinoza non sono io, come suona... di autori, di battute, sì, di frettolisti, diciamo, che si esibisce su spinoza.it con cadenza con regolare, con risultati d'ascolto. Io ne faccio un po' da portavoce, ma non mi chiamo Spinoza, anche se mi piacerebbe. Dunque, di che parliamo? Non lo so, abbiamo parlato un po' di tutto, se sei stato all'ascolto, se no ti tengo lì e poi sentiamo ancora un po' di ascoltatori e quando vuoi ci pizzichi con qualcuna delle tue battute. Allora, tra le nostre sentinelle di questa sera, avevamo detto under 30, qua abbiamo un po' sforato, salutiamo Gioia da Padova, 33enne, buonasera. Buonasera. Sentinella però perché è responsabile di Radio Bue, è così, è una radio universitaria, ho capito bene, di Padova. Sì, perfettamente, sì. A me interesserebbe capire, Gioia, oltre anche alle tue aspirazioni e tue idee sull'andare a restare, su questa protesta, insomma, universitaria. Berlusconi ha detto più volte: i veri studenti stanno a casa e studiano. C'è stata una approvazione silenziosa di questa riforma da parte degli studenti o no, dal tuo osservatorio? Dal nostro osservatorio di Padova effettivamente non è successo come 2 anni fa, che c'era l'onda e aveva coinvolto migliaia di ragazzi. E le quantità di ragazzi coinvolti sono meno, è vero, però non è vero che i veri studenti sono quelli che stanno a casa. Gli studenti che si stanno agitando, anche se sono la minoranza, sono studenti semplicissimi. Sì. A Padova infatti un ragazzo che è stato il 14 dicembre, quando c'è stata la manifestazione a Roma, è stato fermato e poi rilasciato, era uno studente del secondo anno di astronomia, un ragazzo che non aveva mai fatto agitazione. Quindi sono ragazzi che studiano, vanno a lezione e in questi mesi hanno rinunciato magari a qualche lezione o a preparare un esame perché secondo loro era importante manifestare un non netto a questo decreto Gelmini. Ma tra quelli che non protestavano, insomma, prevale un senso, diciamo, di indifferenza rispetto a questi temi o un senso di contrarietà? Ne abbiamo intervistati molti per la nostra radio e chiedevamo che cosa ne pensassero. I ragazzi erano semplicemente È caduta clamorosamente. Va bene, andiamo a qualche ascoltatore. Federico da Milano, buonasera. Buonasera, pronto? Prego. Ah, buonasera. Ma guardi, io sono fresco laureato in ingegneria. Sì. E ho passato 9 mesi all'estero in Israele, dove ho chiuso la mia tesi di laurea. E sono tornato ieri notte a Tel Aviv perché dopo la laurea sono andato a salutare alcuni amici, ho fatto una breve vacanza lì. E quello che le posso dire, che è una cosa che secondo me è bizzarra, che ho rilevato, è il fatto come un paese qual è Israele, che evoca pesanti ipoteche sul suo futuro e quindi di conseguenza anche su quello che sono i giovani israeliani, questa cosa che noi possiamo sentire non venga sentita dai diretti interessati, ovvero dai miei coetanei, dalle persone che si ritrovano nella mia stessa posizione. Per quale motivo questo? Perché vedono la capacità di crescere del loro paese e delle imprese del loro paese, hanno una visione ottimistica della capacità di crescere del loro paese. Questo è supportato anche dal fatto che effettivamente Israele, comunque, diciamo, il settore trainante dell'economia israeliana non è più, diciamo, l'esportazione d'arance, bensì il settore dell'alta tecnologia, con degli investimenti molto molto grossi in questo ambito. E parlando appunto in questi ultimi giorni e confrontandomi con loro, mi hanno anche preso in giro nel momento in cui io, proprio terra a terra, gli raccontavo quali erano gli stipendi d'ingresso di un giovane laureato in ingegneria nel sul mercato del lavoro italiano. E diciamo che ho rilevato questo, lo trovavo bizzarro da un lato, per quello che è il nostro comune vedere e sentire anche la situazione medio orientale, e un po'. Sì, insomma, uno non si aspetterebbe magari in Germania o in Nord Europa o in America, ma a volte certi confronti sono ingloriosi per l'Italia, anche con però Israele è un paese sviluppato, ci picchia. Ma lei si è specializzato in qualcosa, in qualche tecnologia particolare? Perché Israele? Guardi, io lavoro nel ramo biomedico. Nel caso specifico ho fatto un'esperienza per quanto riguarda all'interno di un progetto per la progettazione di un sistema robotico per neurochirurgia. Quindi c'è una protesi, immagino. Robotica, diciamo, proprio telechirurgia e ho capito. Va bene. Chirurgia assistita al robot per appunto operazioni di chirurgia minimamente invasiva in ambito neurochirurgico. Grazie, buona serata. Spinoza, sulle proteste degli studenti, tra l'altro sulla Gelmini, Maria Stalla, ce n'erano anche oggi sul vostro sito spinoza.it. C'è qualcosina, per esempio, sì. La riforma Gelmini introduce alle università i ricercatori a tempo. Dopo 6 anni esplodono, questa è una delle tante novità. della riforma Gelmini, le risorse saranno assegnate agli atenei in base alla qualità della didattica e della ricerca. Se sono buone si può tagliare ancora. Questo è praticamente una sintesi della riforma. Cosa, sì. Nelle commissioni dei concorsi saranno presenti membri stranieri. Per la prima volta arriveranno gli osservatori ONU per verificare che tutto... Addirittura. I concorsi c'è qualche... Beh, guarda, per qualche concorso ci sarebbe davvero bisogno. Per esempio, io devo ancora capire se quella storia che riguarda il rettore della Sapienza, che c'ha moglie, figlio e figlia, tutti per il merito, però insomma... È davvero incredibile. Non si può che augurarci che questa riforma sconfigga questo baronismo e nepotismo che appunto imperano nell'università. Un altro tema scottante, poi, che ha attraversato tutto l'arco dell'anno, è stata la crisi di governo, la crisi Berlusconi-Fini, la svolta di Mirabello, la seconda svolta di Fini, ancora una, e tornerà al punto di partenza. Dopo tutto quello che ha fatto, sì, in effetti. Esatto. Fini a Mirabello disse una frase epocale: disse: chiamo a raccolta l'Italia onesta. Non è arrivato nessuno. È una conferma che non può andare oltre l'8%, cioè certo. Non può chiaramente aspirare a nulla con questo proclama, chiaramente. Poi altri motivi, se vogliamo concludere, sì, per andarcene o per restare, un motivo, sì, per restare è perché con tutti questi cervelli che fuggono si sembra più intelligenti se si resta. Si fa più bella figura, certo. Essendo in fuga i cervelli, e poi anche perché l'Italia ha molte peculiarità. È l'unico posto dove ti puoi svegliare la mattina e ti accorgi che davanti al tuo balcone c'è il Colosseo, cose che magari non avevi mai fatto caso prima, e poi improvvisamente trovi il Colosseo, un paese magico. Un motivo invece per andarcene, perché per vedere in Italia immigrati che lavorano accettati e ben voluti, non devi andare a vedere l'Inter per forza, ci sono anche altre occasioni per cui un immigrato può lavorare in serenità. Un altro motivo per andarsene, perché magari è all'estero che si è nascosta l'opposizione, e quindi appunto fa una specie di... Così si scopre finalmente dove è finita l'opposizione, magari contribuisce un po' alla situazione politica. Chiuderei con l'ultima cosa, poi faccio buon anno a tutti quanti. Sì. Anche perché sta arrivando Napolitano, quindi in corso. Sta arrivando Napolitano, non possiamo perdercelo. Sintesi della crisi e della fiducia di governo: Berlusconi è sceso così in basso che è riuscito a non cadere. E con questa chiuderei. Grazie. Vogliamo darti un nome, Spinoza? Perché io ho detto Spinoza per sintetizzare. A questo punto, diamoti un nome. Io mi chiamo Stefano Andreoli, sono quasi giovane, nel senso che ho 31 anni, quindi non rientro per poco tra le sentinelle. Però secondo l'Istat sì, under 35, secondo noi stasera no, perché è over 30, però insomma non importa. Allora, poi, perfetto, sto tra coloro che sono sospesi, diciamo. Buona serata, auguri. Auguri a voi e buon anno. Ciao. Voglio sentire Gino che chiama da Genova, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Tanti auguri per un buon anno. Sul lavoro ai giovani, naturalmente lascio il discorso dei laureati, ma per i diplomati, per esempio, io ho due amici che hanno una ditta di impianti di riscaldamento, non riescono assolutamente a trovare giovani. Li trovano, stanno un mese, due mesi, poi abbandonano, non si presentano, non lavorano, e come dire, i nonni provvedono al mantenimento. Quindi voglio dire, anche... Cioè lei dice, insomma, ci sono tanti giovani che si chiudono, si nascondono bene per non farsi trovare quando c'è lavoro, se il lavoro non piace. No, ma lo rifiutano, perché sì, certi lavori, che poi voglio dire, anche fare impianti di riscaldamento, non è che si guadagni così male, però no, assolutamente. Ma perché succede questo secondo lei? Perché? Perché i nonni, povero bambino, e cosa vuoi, alzarti la mattina alle 7, il lavoro è pesante, ti sporchi, è meglio che stai a casa. E come dire, si pensano i nonni finché ci sono, ecco. Grazie anche a lei per questo intervento. Rosalba da Bergamo, buonasera. Buonasera, io prego. Volevo intervenire perché ho trovato singolarmente fastidioso il fatto che le volte contro la non estradizione di Battisti si siano elevate da La Russa e Gasparri, La Russa che tra un po' si autoproclamerà ministro della guerra, e così siamo a posto, faremo guerra al Brasile e via. Sì, La Russa ci è andato giù un po' pesante, sì, però anche Napolitano questa sera. In un caso, per esempio, di queste ultime settimane, cioè la nomina per chiamata diretta di un tale Bianco, mi pare, alla CEA di Roma, una società simile del Comune di Roma, ex terrorista di Iran, condannato per omicidio, io non ho sentito nessuna voce levarsi scandalizzata su questo, cioè veramente ho trovato incredibile questa cosa qua. E non è l'unico caso, in queste società romane sono stati assunti altri ex terroristi neri condannati, non tutti per omicidio, che hanno avuto comunque il via la condanna per omicidio. Adesso io questo non... La condanna di Bianco è una condanna per omicidio scontata, quindi in un fatto di terrorismo con la banda di Fioravanti, di Giulio Fioravanti, quindi è sicuro questo. Questa cosa qui, che questa persona per esempio, che è altrettanto colpevole quanto Battisti, persona umanamente odiosa secondo me, è stato sottovalutato, tacciuto più che sottovalutato. Quindi se il ministro della guerra futuro, cioè la Russia, levasse i suoi alti lai, anche in difesa di un qualcosa di diverso. La salutiamo perché sta iniziando il discorso di Giorgio Napolitano. Non vi stupirete, credo, se dedico questo messaggio soprattutto ai più giovani tra noi, che vedono avvicinarsi il tempo delle scelte e cercano un'occupazione, cercano una strada. Dedico loro questo messaggio perché i problemi che essi sentono e si pongono per il futuro sono gli stessi che si pongono per il futuro dell'Italia. Incontrando di recente per gli auguri natalizi i rappresentanti del Parlamento e del Governo, delle istituzioni e dei corpi dello Stato, ho espresso la mia preoccupazione per il malessere diffuso tra i giovani e per un distacco ormai allarmante tra la politica, tra le stesse istituzioni democratiche e la società, le forze sociali, in modo particolare le giovani generazioni. Ma non intendo tornare questa sera su tutti i temi di quell'incontro. Ribadisco solo l'esigenza di uno spirito di condivisione da parte delle forze politiche e sociali delle sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare e l'esigenza di un salto di qualità della politica, essendone in gioco la dignità, la moralità, la capacità di offrire un riferimento e una guida. Ma a questo riguardo voi che mi ascoltate non siete semplici spettatori, perché la politica siete anche voi, in quanto potete animarla e rinnovarla con le vostre sollecitazioni e i vostri comportamenti, partendo dalle situazioni che concretamente vivete, dai problemi che vi premono. Siamo stati anche nel corso di quest'anno 2010 dominati dalle condizioni di persistente crisi e incertezza dell'economia e del tessuto sociale. E ormai da qualche tempo si è diffusa l'ansia del non poterci più aspettare, nella parte del mondo in cui viviamo, un ulteriore avanzamento e progresso di generazione in generazione come nel passato. Ma non possiamo farci paralizzare da quest'ansia. Non potete farvene paralizzare voi giovani. Dobbiamo saper guardare in positivo al mondo come è cambiato e all'impegno, allo sforzo che ci richiede. Che esso richiede specificamente, in modo più pressante, a noi italiani, ma non solo, all'Europa, agli Stati Uniti. Se il sogno di un continuo progredire nel benessere ai ritmi e nei modi del passato è per noi occidentali non più perseguibile, ciò non significa che si debba rinunciare al desiderio e alla speranza di nuovi e più degni traguardi da raggiungere nel mondo segnato dalla globalizzazione. E innanzitutto è conquista anche nostra, è conquista della nostra comune umanità, il rinascere di antiche civiltà, il travolgente sviluppo di economie emergenti in Asia, in America Latina, in altre regioni, anche nell'Africa ci si è messi in cammino, rimaste a lungo ai margini della modernizzazione. È conquista della nostra comune umanità il sollevarsi dall'arretratezza, dalla povertà, dalla fame di centinaia di milioni di uomini e donne nel primo decennio di questo nuovo millennio. Paesi e popoli con i quali condividere lo slancio verso un mondo globale più giusto, più comprensivo dell'apporto di tutti, più riconciliato nella pace e in uno sviluppo davvero sostenibile. È in effetti possibile un impegno comune senza precedenti per fronteggiare le sfide e cogliere le opportunità di questo grande tornante storico. Siamo tutti chiamati a far fronte ancora alla sfida della pace, sempre messa a dura prova da persistenti e ricorrenti conflitti e da cieche trame terroristiche. Della pace e della sicurezza collettiva, che esigono tra l'altro una nuova assunzione di responsabilità nella comunità internazionale da parte delle grandi potenze emergenti. Siamo chiamati a cogliere le opportunità di un processo di globalizzazione tuttora ambiguo nelle sue ricadute sul terreno dei diritti democratici e delle diversità culturali ed estremamente impegnativo per continenti e paesi, l'Europa, l'Italia, che tendono a perdere terreno nell'intensità e qualità dello sviluppo. Ecco, da questo scenario non possono prescindere i giovani nel porsi domande sul futuro, non possono porsele senza associare strettamente il discorso sull'Italia e quello sull'Europa, senza ragionare da italiani e da europei. Molto dipenderà infatti per noi dalla capacità dell'Europa di agire davvero come unione, unione di stati e di popoli, ricca della sua pluralità e forte di istituzioni che sempre meglio le consentano di agire all'unisono, di integrarsi più decisamente. Solo così si potrà non solo superare l'attacco all'euro e una insidiosa crisi finanziaria nell'eurozona, ma aprire una nuova prospettiva di sviluppo dell'economia e dell'occupazione nel nostro continente ed evitare il rischio della sua irrilevanza o marginalità in un mondo globale che cresca lontano da noi. Sono convinto che questa sia una verità destinata a farsi strada anche in quei paesi europei in cui può serpeggiare l'illusione del fare da soli, l'illusione dell'autosufficienza. Pensare con positivo realismo in termini europei equivale a non illuderci in Italia di poter sfuggire agli imperativi sia della sostenibilità della finanza pubblica, sia della produttività e competitività dell'economia e più in generale del sistema paese. D'altronde, sono convinto che quando i giovani denunciano un vuoto e sollecitano risposte, sanno bene di non poter chiedere un futuro di certezze, magari garantite dallo Stato, ma di aver piuttosto diritto a un futuro di possibilità reali, di opportunità a cui accedere nell'eguaglianza dei punti di partenza secondo lo spirito della nostra Costituzione. Nelle condizioni dell'Europa e del mondo di oggi e di domani non si danno certezze e nemmeno prospettive tranquillizzanti per le nuove generazioni se vacilla la nostra capacità individuale e collettiva di superare le prove che già ci incalzano. Tantomeno, ho detto, si può aspirare a certezze che siano garantite dallo Stato a prezzo del trascinarsi o dell'aggravarsi di un abnorme debito pubblico. Quel peso non possiamo lasciarlo sulle spalle delle generazioni future senza macchiarci di una vera e propria colpa storica e morale. Trovare la via per abbattere il debito pubblico accumulato nei decenni e quindi sottoporre alla più severa rassegna i capitoli della spesa corrente, rendere operante per tutti il dovere del pagamento delle imposte a qualunque livello le si voglia assestare, questo dovrebbe essere l'oggetto di un confronto serio, costruttivo, responsabile tra le forze politiche e sociali, fuori dall'abituale frastuono e da ogni calcolo tattico. Ma affrontare il problema della riduzione del debito pubblico e della spesa corrente, così come mettere mano a una profonda riforma fiscale, vuol dire compiere scelte significative, anche se difficili. Si debbono o no, ad esempio, fare salve risorse adeguate a partire dai prossimi anni per la cultura, per la ricerca e la formazione, per l'università? Che questa scelta sia da fare, lo ha detto il Senato accogliendo espliciti ordini del giorno in tal senso prima di approvare la legge di riforma universitaria, una legge il cui processo attuativo, colgo l'occasione per dirlo a coloro che l'hanno contestata, consentirà ulteriori confronti in vista di più condivise soluzioni specifiche e potrà essere integrato da nuove decisioni come quelle auspicate dallo stesso Senato. In generale occorre individuare priorità che siano riferibili a quella strategia di più sostenuta crescita economico-sociale che per l'Italia è divenuta, dopo un decennio di crescita bassa e squilibrata, condizione tassativa per combattere il rischio del declino anche all'interno dell'Unione Europea. Vorrei fosse chiaro che sto ragionando sul da farsi nei prossimi anni. Giudizi sulle politiche di governo non competono al Capo dello Stato, ma appartengono alle sedi istituzionali di confronto tra maggioranza e opposizione, in primo luogo al Parlamento. E vorrei fosse chiaro che parlo di una strategia e parlo di priorità da far valere non solo attraverso l'azione diretta dello Stato e di tutti i poteri pubblici, ma anche attraverso la sollecitazione di comportamenti corrispondenti da parte dei soggetti privati. Abbiamo così bisogno non solo di più investimenti pubblici nella ricerca, ma di una crescente disponibilità delle imprese a investire nella ricerca e nell'innovazione. Passa anche di qui l'indispensabile elevamento della produttività del lavoro, tema oggi di un difficile confronto che mi auguro evolva in modo costruttivo in materia di relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Reggere la competizione in Europa e nel mondo, accrescere la competitività del sistema paese, comporta per l'Italia il superamento di molti ritardi, di evidenti fragilità, comporta lo scioglimento di molti nodi riconducibili a riforme finora mancate e richiede coraggio politico e sociale per liberarci di vecchie e nuove rendite di posizione, così come per riconoscere e affrontare il fenomeno di disuguaglianze e acuti disagi sociali che hanno sempre più accompagnato la bassa crescita economica, almeno nell'ultimo decennio. Disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza, impoverimento di ceti operai e di ceti medi, specie nelle famiglie con più figli e un solo reddito, e ripresa della disoccupazione sotto l'urto della crisi globale scoppiata nel 2008. Gli ultimi dati ci dicono che le persone in cerca di occupazione sono tornate a superare i 2 milioni, di cui quasi uno nel mezzogiorno, e che il tasso di disoccupazione nella fascia di età tra i 15 anni e i 24, ecco di nuovo il discorso sui giovani, nel suo aspetto più drammatico, ha raggiunto il 24,7% nel paese, il 35,2% nel mezzogiorno e ancor più tra le giovani donne. Sono dati che debbono diventare l'assillo comune della nazione. Se non apriamo a questi ragazzi nuove possibilità di occupazione e di vita dignitose, nuove opportunità di affermazione sociale, la partita del futuro è persa, non solo per loro, ma per tutti, per l'Italia, ed è in scacco la democrazia. Proprio perché non solo speriamo, ma crediamo nell'Italia e vogliamo che ci credano le nuove generazioni, non possiamo consentirci il lusso di discorsi rassicuranti, di rappresentazioni convenzionali del nostro lieto vivere collettivo. C'è troppa difficoltà di vita quotidiana in diverse sfere sociali, troppo malessere tra i giovani. Abbiamo bisogno di non nasconderci nessuno dei problemi e delle dure prove da affrontare, proprio per poter suscitare un vasto moto di energie e di volontà capace di mettere a frutto tradizioni, risorse e potenzialità di cui siamo ricchi. quelle che abbiamo accumulato nella nostra storia di 150 anni di Italia unita. Celebrare quell'anniversario, come abbiamo cominciato a fare e ancor più faremo nel 2011, non è perciò un rito retorico. Non possiamo come nazione pensare il futuro senza memoria e coscienza del passato. Ci serve, ci aiuta ripercorrere nelle sue asprezze e contraddizioni il cammino che ci portò nel 1861 a diventare Stato nazionale unitario ed egualmente il cammino che abbiamo successivamente battuto anche fra tragedie sanguinose ed eventi altamente drammatici. Vogliamo e possiamo recuperare innanzitutto la generosità e la grandezza del moto unitario. E penso in particolare a una sua componente decisiva, quella dei volontari. Quanti furono i giovani e giovanissimi combattenti ed eroi che risposero anche sacrificando la vita a quegli appelli per la libertà e l'unità dell'Italia? Dovremmo forse tacerne e rinunciare a trarne ispirazione, ma quello resta un patrimonio vivo cui ben si può attingere per ricavarne fiducia nelle virtù degli italiani, nel loro senso del dovere comune e dell'unità e nella forza degli ideali. Ed è patrimonio vivo quello del superamento di prove meno remote e già durissime, come il liberarci dalla dittatura fascista, il risollevarci dalla sconfitta e dalle distruzioni dell'ultima guerra, ricostruendo il paese e trovando l'intesa su una Costituzione animata da luminosi principi. No, nulla può oscurare il complessivo bilancio della profonda trasformazione, del decisivo avanzamento che l'unità, la nascita dello Stato nazionale e la sua rinascita su basi democratiche hanno consentito all'Italia. Di quel faticoso cammino è stata parte il ricercare e stabilire, come ha voluto sottolineare ancora di recente il Pontefice, indirizzandoci un pensiero augurale che sentitamente ricambio, giuste forme di collaborazione fra la comunità civile e quella religiosa. Sono convinto che nelle nuove generazioni sia radicato il valore dell'unità nazionale e insieme il valore dello Stato unitario come presidio irrinunciabile nell'era del mondo globale. Uno Stato, peraltro, in via di ulteriore rinnovamento, secondo un disegno di riforma già concretizzatosi nella legge sul federalismo fiscale. Sarà essenziale attuare quest'ultima in piena aderenza ai principi di solidarietà e coesione sociale cui è stata ancorata. Sarà essenziale operare su tutti i piani per sanare la storica ferita di quel divario tra nord e sud che si va facendo perfino più grave, mentre risulta obiettivamente innegabile che una crescita più dinamica dell'economia e della società nazionale richiede uno sviluppo congiunto basato sulla valorizzazione delle risorse disponibili in tutte le aree del paese. Il futuro da costruire, guardando soprattutto all'universo giovanile, richiede un impegno generalizzato. Quell'universo è ben più vasto e vario del mondo studentesco. A tutti rivolgo ancora la più netta messa in guardia contro ogni cedimento alla tentazione fuorviante e perdente del ricorso alla violenza. In particolare poi invito ogni ragazza e ragazzo delle nostre università a impegnarsi fino in fondo, a compiere ogni sforzo per massimizzare il valore della propria esperienza di studio e l'invito a rendersi protagonisti con spirito critico e seria capacità propositiva dell'indispensabile rinnovamento dell'istituzione università e del suo concreto modo di funzionare. Investire sui giovani, scommettere sui giovani, chiamarli a fare la propria parte, dare loro adeguate opportunità. Che questa sia la strada giusta ho potuto verificarlo in tante occasioni. dall'incontro nel gennaio scorso con gli studenti di Reggio Calabria impegnati sul tema della legalità, a quello in novembre con i giovani volontari di Vicenza mobilitatisi per far fronte all'emergenza alluvione, e via via potendo apprezzare realtà altamente significative. Penso ai giovani che con grandissima consapevolezza e abnegazione fanno la loro parte nelle missioni militari in aree di crisi, alle famiglie di quelli tra loro che sono caduti purtroppo ancora oggi e di tutti gli altri che compiono il loro dovere esponendosi a ogni rischio. Desidero rinnovare stasera la mia, la nostra gratitudine e vicinanza. Penso ai giovani magistrati e ai giovani appartenenti alle forze di polizia che contribuiscono in modo determinante e al crescente successo nella lotta per liberare l'Italia da uno dei suoi gravi condizionamenti negativi, la presenza aggressiva e inquinante della criminalità organizzata. Sì, possiamo ben aprirci la strada verso un futuro degno del grande patrimonio storico universalmente riconosciuto della nazione italiana. Facciano tutti la loro parte. Quanti hanno maggiori responsabilità e ne debbono rispondere nella politica e nelle istituzioni, nell'economia e nella società, ma in pari tempo ogni comunità, ogni cittadino, dovunque, anche a Napoli. Lasciatemi rivolgere queste parole di incitamento a una città per la cui condizione attuale provo sofferenza, come molti in Italia. Faccia anche a Napoli la sua parte ogni istituzione, ogni cittadino, nello spirito di un impegno comune, senza cedere al fatalismo e senza tirarsi indietro. Vedete, sentire l'Italia, volerla più unita e migliore, significa anche questo, sentire come proprio il travaglio di ogni sua parte, così come il travaglio di ogni sua generazione, dalle più anziane alle più giovani. A tutti dunque, agli italiani e agli stranieri che sono tra noi condividendo doveri e speranze, il mio augurio affettuoso, il mio caloroso buon 2011. Sono voluti 22 minuti per sentirci dare gli auguri di buon anno da Napolitano, un discorso più lungo del solito se non ricordo male, adesso però non voglio stare a sottolineare i passaggi più o meno importanti perché comunque saranno sui giornali domani, invece voglio sentire ancora gli ascoltatori che hanno avuto la tenacia di rimanere in linea. E quindi Roberto da, anzi Fabrizio, no chi abbiamo? Valeria, la terza ce l'ho fatta, da Varese. Valeria, buonasera. Buonasera e buon anno, diciamo. Allora, sì. Ho telefonato perché il problema di restare o andare fuori dall'Italia. Io ho 24 anni che faccio la frontaliera, cioè vado a lavorare in Svizzera. Fa avanti e indietro. Faccio avanti e indietro e dico, adesso non ho più l'età purtroppo di tornare in Italia, ma io sarei ritornata volentieri, perché cioè, ci sono molti sacrifici, le persone che dicono dobbiamo andare all'estero non si rendono conto che hai solo 4 settimane di vacanza, lavori 40 ore settimanali, non hai per la maternità, io sono donna, ho 2 figli, hai solo 16 settimane di maternità, di congedo maternità, non hai permessi per la malattia dei figli e tutto. Per cui io dico, benvenga, cioè stare in Italia a lavorare se si trova il lavoro. Io ho abbandonato l'Italia perché non trovavo lavoro, perché c'era il blocco delle assunzioni quando mi sono diplomata come infermiera. E quindi quando sento i giovani, o anche Grillo, quando, sì, perché seguivo la tua trasmissione mentre stavo tornando a casa dopo 14 ore di lavoro, E dicevo, anche Grillo che dice bisogna emigrare, io non so gli universitari, i ricercatori che incentivi hanno andando all'estero, però no, l'unico incentivo è quello di fare intraprendere una strada diversa, di un percorso diverso. Finisca, però, sì. Però io dico la verità, cioè ben venga stare in Italia. Perché... Grazie, benissimo, mi sembra questa la sintesi del suo intervento. Maurizio da Milano, buonasera. Buonasera. sera. Ha avuto la forza di rimanere in linea per 20 minuti con Napolitano che... Sì, l'abbiamo ascoltato per un po', ma d'altronde il compito del nostro capo dello Stato è quello di cercare di tenere tutti uniti, anche se è abbastanza difficile in questo paese. Volevo solo fare un piccolo intervento in merito all'intervista che avete fatto a quello studente rappresentante degli universitari. Luca Cafagna, sì. Ecco, che non ricordavo il nome. Che ho sentito avere 26 anni sì. ed è studente. Volevo solo dire che se uno studia all'università... Prima o poi si laurea, lei dice. Ecco, ma dico, non voglio peccare di presunzione perché, guarda caso, io proporto ad esempio le mie figlie sì. che si sono laureate con 110 lode, hanno finito a 24 anni, una è a 25, complimenti. L'altra perché ha fatto 6 anni di medicina, e non ho mai speso una lira per l'università, perché hanno sempre preso la borsa di studio. Ah, questo tra l'altro è il tema dire, quello caldissimo. In questo paese, se si studia, se si lavora e se lasciassero lavorare anche noi piccoli imprenditori senza costruire tutti i giorni trincee nelle quali dobbiamo combattere per poter fare il nostro mestiere, questo paese avrebbe un futuro. Non ce l'ha perché abbiamo una classe politica che credo non meritiamo, ma tutti, destra, sinistra, grazie, non fanno grazie. Nient'altro che renderci la vita più difficile. Grazie. Roberto da Modena, buonasera. Buonasera, sono Roberto. Un altro sopravvissuto nella lunga attesa. No, però è stato bello, mi è piaciuto. Sì. Intanto do il buon anno a tutti, anche a voi di Radio 24. Grazie. E volevo dire che io andare all'estero a lavorare o per studiare non penso che sia una cosa così negativa per i giovani. A parte io ho 53 anni, premetto, perché la gente che viaggia e che va a studiare anche all'estero può solo crescere. Vabbè, può crescere anche in Italia, ma non vedo cosa ci sia di sbagliato. Nulla, certo. Esatto. Poi un'altra cosa, volevo parlare, le dimostrazioni che hanno fatto gli studenti ultimamente, sì. A Roma, a Firenze, in tutte sì. le città, io penso che sia una cosa estremamente positiva, perché dimostrano che vogliono e ci tengono a difendere la scuola pubblica. La scuola pubblica la sentono loro ed è una cosa positiva che la difendono, perché la riforma è un... No, si sente male, comunque lei ha detto quello che pensava, per cui grazie anche a lei. Adesso chi sentiamo? Fabrizio da Napoli, siamo quasi in chiusura, prego, buonasera. Fabio, buonasera, sono ancora vissuto, stiamo a mangiare. Sì. No, volevo dire due cose rapidissime sulle pensioni sì. Allora, in Brasile l'ergastolo è anticostituzionale, quindi bastava semplicemente che lui avesse magari 100 anni di carcere, lo avrebbero estradato. La situazione carceraria è anche in Brasile, quindi sovraffollamento e tutto quello che si sa o che non si dice in questo paese, quindi soluzioni sarebbero riprendere l'Alfano Bernardini, inizialmente concedito, se vuole io spiego rapidamente, che è stato poi affossato la Lega, i DV, PD e gli ex DAN, appoggiato solo dai radicali, gli ex di Forza Italia, e riprendere il referendum costituzionale radicale abortito dalla Corte Costituzionale sull'abolizione dell'ergastolo e depenalizzare alcuni reati come quelli connessi all'immigrazione, alla Fini Giovanardi e anche ad altri reati minori e fantasiosi. E sul decreto Alfano si stava semplicemente io non ho capito quasi nulla, forse era anche l'audio, forse la stanchezza dopo il discorso di Napolitano. Voglio chiudere con un altro intervento. Luca dalla provincia di Parma, un minuto, buonasera. L'ultimo discorso buonasera. Dell'anno alla Zanzara. Buonasera a lei, senta, mi porterà fortuna, spero. Senta, io ho 46 anni, mi sono laureato anni fa, avevo appena compiuto 23 anni e a quei tempi anch'io ero affascinato dal voler fare ricercatore come Luca Cafagna, credo. Sì. E, io però ero molto più giovane, però sono andato a cercarmi una nicchia di mercato che non voleva fare nessuno, sono andato a fare l'informatore scientifico del farmaco, che a quei tempi era un lavoro che a tutti faceva schifo. Io ho fatto una ottima carriera. Bravo, vedi, finalmente in chiusura è arrivato non dico un suggerimento, ma insomma... Ho fatto un'ottima carriera, adesso sono un dirigente, sto molto bene, un ottimo tenore di vita. Grazie, grazie. La musichetta è inflessibile. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Grazie, grazie a tutti, e in particolare a Riccardo Poli, Giorgio De Luca e Viola Bottoni in redazione, a Pietro Lacorte che è in regia di là dal vetro. Buon anno a tutti, auguri, ci sentiamo quando ci sentiamo, non lo so, adesso il GR.